sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di Pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Uomini come te, amore, agli uomini come te non bisogna mai chiedere niente, perché già si sa quello che vuoi. Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? Volevo segnalare al nostro gentile pubblico, al popolo della radio, al popolo della zanzara, che sono entrato in studio, Parenzo, qui per la diretta delle 18.30, e di fronte a me c'era un computer, cosa che non è molto strana ovviamente, no? Un computer in cui c'è scritto su Google Sebastiano Barisoni, cioè il signor Barisoni, che viene prima di noi, che entra in questo studio, si è googolato mentre faceva la diretta. Magari non è stato ha lui. Fatto Google, come no? C'era lui prima. Ha no, fatto magari. Su Google Sebastiano, sai come i ragazzini di 15 anni? Sebastiano Barisoni, vediamo un po' che esce su di me. Risultato, un cazzo. C'erano 41.900 risultati, uno ogni 0, no, che cos'è questo 0,36 secondi? Boh, comunque vabbè, si è googolato, ragazzi. Spettacolare, spettacolare. Allora, Oliviero Toscani vuole dare qualche chiarimento sulle sue parole che hanno provocato una bufera pazzesca in Veneto, pazzesca, con l'intervento del governatore Zaia, eccetera, eccetera, eccetera. Class action, persone che vogliono portarlo in tribunale, addirittura un gruppo di cittadini di Padova vuole chiedergli non so quale decine di migliaia di euro, una signora di 59 anni incazzata che ha presentato denuncia, e poi ancora i parlamentari veneti della Lega che dicono che deve tacere, che si deve sciacquare la bocca prima di parlare del loro popolo. Lui darà qualche chiarimento. Ho chiesto, Oliviero, vuoi chiedere scusa? Mai! Beh, qui mi piace Oliviero, a modo mio, ha detto, a modo mio. Comunque risentiamo tutto, le dichiarazioni che hanno infiammato il Veneto. Toscani, senti, quando parla il sindaco di Padova, guarda, di fonici, quel dialetto meraviglioso, che è il dialetto padovano, anch'io ho difficoltà praticamente, da ubriachi, un accento da alcolizzati. No, dai, su, no, non si può dire, cioè tu dici l'accento veneto è da ubriachi, sì, da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre, no, cioè, un popolo, tu dici è un popolo di ubriaconi alla fine, alcolizzati atavicamente, non loro personalmente, ma nonni, padri, madri, cioè, no. Cronici, alcolizzati, cronici, dai. Guarda Parenzo, non è un po'... Ma scusa, ma tu veramente, Oliviero, no, vuoi farti emanare una fatua dal Veneto? Cioè vuoi che ti impediscono di entrare in Veneto? Ce ne dici di tutti i colori sui veneti, cioè. Ma no, poveretti. Beh, no, poveretti, mica insomma, dai. Mica colpa loro se non ce l'hanno, E intanto tanto. E intanto a Roma senti un po' questo assessore, donna, che è la nipote di Andreotti. Si chiama Francesca Danese a Roma. Senti cosa propone l'assessore alle politiche sociali a Roma. Siamo veramente al delirio, eh. Veramente stiamo quasi per toccare il fondo. Ancora non ci siamo, stiamo quasi per toccare il fondo. Siccome i Rom hanno certe caratteristiche, poi tra l'altro questo assessore che vuole fare un favore ai Rom in realtà provoca ai Rom un danno per quello che dice. Sono bravi a recuperare materiali in disuso. Senti che dice. Siccome sono bravi a recuperare materiali, cioè a rubare, sono bravi a recuperare materiali in disuso, li aiuteremmo a integrarsi e a lavorare. Cioè vuole impiegare i nomadi per la raccolta differenziata. Beh, questo non è sbagliato però. Ma dai, dai. Vuole creare anche lì delle corsie privilegiate per i Rom. Per i signori Rom, no, privilegiate. Come no? Come no? Dare lavoro ai Rom. Si tratta di valorizzare un talento. Cioè, siccome sono ladri, siccome dice lei, talento, ma lo dice però, lei no, siccome dire, sono anche ladri, fosse facciamo una talento. Cooperativa. Come a Firenze volevano fare la cooperativa. Siccome rubano ai turisti che arrivano alla stazione, allora facciamo una cooperativa per i bagagli. Ma scusa, ma ti pare normale a te? È una cosa incredibile. Impiegare i nomadi per la raccolta differenziata. La signora Danese, assessore Di Marino. Dai, su. Non bastano 250.000 euro lordi per campare, ce l'ha rivelato ieri, sentite. C'è da dire che sarei stato spesato di tutto punto, quello avrei dovuto considerarlo, però insomma indubbiamente 250.000 euro lordi non sono una paga adeguata, non dico al Presidente della Repubblica, ma per me non sono sufficienti. Incazzatevi pure. Oh, è tornato ad Inolfi. Tu sai che il Vaticano ci vuole anche insegnare l'estetica, no? Sì, e ho visto questa polemica Monsignor sul cosiddetto burka. Monsignor Ravasi ha definito la chirurgia estetica, questo Vaticano deve smetterla di rompere i coglioni. Devono smetterla questi cardinali, questi preti, non tutti ovviamente, monsignori, di dirci che cosa dobbiamo fare. Non è possibile che anche una persona rispettabile come Monsignor Ravasi ci dica, la chirurgia estetica dà un valore... È un disvalore perché la donna, eccetera, eccetera, eccetera. Ognuno fa quello che vuole. Uno si può anche ammazzare di chirurgia estetica senza trovare un Ravasi di turno che rompa i coglioni. Ma che deve fare Ravasi, però? No, ma Ravasi può fare a meno di parlare di chirurgia estetica. Non è obbligatorio. È il suo lavoro. Ma non è obbligatorio. Ma perché? Non è detto alla Chiesa parli della famiglia, di queste cose qua. Ma che puoi insegnare alla Chiesa come fare la Chiesa. Ma perché deve rompere i coglioni sulla questione della. Ma io posso essere d'accordo con te, ma non è che dico alla Chiesa, no, tu non puoi. Cioè, tu sai come. Tu sai come ha definito il burka, il burka di carne, certo, il burka di carne, la sì. Che anche da un punto di vista immaginifico un bel linguaggio, una bella immagine alla fine, no? Dal punto di vista del lessico. Dai, Adinolfi, ovviamente con chi sta Adinolfi secondo te? Prova a indovinare con chi sta Adinolfone. Beh, questo non è difficile da prova capire. A indovinare con chi sta il nostro nuovo mulla, nostro nuovo mulla col cupolone, il mulla Adinolfi. Sì. Le labbra carosso sono un falso mito di progresso. Ma dai, su, ma uno fa quello che vuole. Ma certo, se vede. Non fa cazzate meglio, diciamo, capisci? Le labbra Canotto sono un falso mito di progresso. Tu ti rendi conto o no? Adinolfi, va bene che uno deve trovare, però. Donne, volete distendere la pelle? Non prendere il botulino, ingrassate che diventate più corpose. Vabbè, distendere la pelle, non botulino, diventate botole. Vabbè. Teorie di Adinolfi per distendere la pelle, ingrassate. Ma se uno non vuole ingrassare, invece si vuole fare il botulino e farsi le labbra a canotto, a me fanno orrore le labbra a canotto. Ma perché devo avere Monsignor Ravasi che mi dice, che mi scomunica a nome della Chiesa? La concezione della donna non è questa. Le labbra a canotto sono un burka di carne. Ma che ti frega? Perché? Perché? Ma lascia libere le donne di rifarsi quanto vogliono, Monsignor. Monsignor Ravasi, te lo dico d'amico. Sono carico oggi, sono carico dopo aver ascoltato ieri sera Cristiano Malgioglio. No, pensavo il presidente, il discorso del presidente. Il discorso del presidente, sì, l'ho lasciato per ultimo. Sì, hai ragione, prima di Malgioglio il presidente, anche se sarebbe da mettere Malgioglio su Belen Rodriguez. Però io non ho mai sentito un discorso del presidente, come dire, non mi ricordo altri discorsi dei presidenti. Significa che tutti i discorsi dei presidenti della Repubblica, quelli di insediamento, sono pressoché inutili, totalmente inutili, diciamo la verità. Per cui oggi parleremo, ha detto questo, ha detto quest'altro, forse ha detto quell'altra cosa, voleva dire questo, ha detto questa cosa della Costituzione, è importante che abbia parlato delle donne, eccetera eccetera, ma diciamo la verità, nessuno si ricorda una parola degli altri discorsi di insediamento del Presidente della Repubblica. Forse ci ricordiamo di quel discorso di Napolitano il giorno del secondo mandato, perché diede una frustata, schiaffeggiò i partiti, certo. Esatto, ma ci ricordiamo quello, ma proprio noi gli specialisti della politica, quelli che si interessano di queste cose, altrimenti non si ricorda nulla. Io però ho ricordato una cosa, il ricordo di un bimbo ebreo della sinagoga, parlo io, se no tu ci metti 4 ore per parlare, un ragazzino di 2 anni, Tashé, fu ucciso nell'82 alla sinagoga. Io ero là vicino al Virgilio di Roma, a pochi passi, e mi ricordo, successe un casino tremendo, ed è stato un ricordo interessante, perché magari fa capire una vicinanza di Mattarella allo Stato di Israele, magari, dico di no, infatti è stato subito invitato in sinagoga. E poi la questione dei Marò, cosa che Napolitano non aveva fatto, per esempio, anche recentemente, nel discorso di Capodanno, invece lui ha ricordato la vicenda dei Marò, però sono dettagli, dai. Sei stato contento del ragazzino ebraico citato, no? Di Tashé, tu immagino, ebreo. No? Beh, semplicemente ebreo, perché parlando del terrorismo internazionale ha detto che noi il terrorismo lo abbiamo avuto in casa. È vero. Perché è stato l'unico a ricordare questo, che abbiamo avuto una vittima del terrorismo palestinese in casa. Ma abbiamo con noi, abbiamo con uno addirittura che è stato quasi accusato di terrorismo, perché è una figura storica del risveglio veneto, il tuo amico Franco Rocchetta, caro Parenzo. Franco, ciao, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a voi. Buonasera, allora ti faccio subito dire una cosa, tu sai chi è il Presidente della Repubblica, Franco? Beh sì, sì, un rappresentante del regime che sta soffocando i popoli italiani da più di un secolo. Ma sai come si chiama? Sì, so che mi dispiace per il fratello che è stato ucciso dalla figlia dello Stato italiano, cioè è stato ucciso dalla mafia. Cioè tu stai dicendo che il fratello di Mattarella, Piersanti Mattarella, è stato ucciso in sostanza dallo Stato italiano? Beh, la mafia come nasce? Dal socio dello Stato italiano? Il socio, ma sono anche parenti, perché arriva prima lo Stato piemontese in Sicilia, prima ancora che nasca la mafia come la conosciamo. Ma dimmi la verità, ti interessa? È il tuo presidente o no? No, non è il tuo presidente. Beh, io ho doppia nazionalità, quindi nazionalità italiana. Cosa vuol dire? Doppia nazionalità, ce n'è solo una di nazionalità, Franco? Doppia cittadinanza. Ma una sola ce n'è? No, c'è anche la doppia cittadinanza. Noi veneti siamo cittadini della Repubblica Veneta. Sì, ma non esiste la Repubblica Veneta però, formalmente. Cioè, ancora non c'è. Ma tu hai non esiste. Non esiste. Ma tu hai due passaporti, non ho capito. Ma scusami, se tu... Se tu non hai in mano una carta d'identità, vuoi dirmi che tu non esisti? No, d'accordo. No, però formalmente. Se il tuo portafoglio ti è stato rubato con uno scippo, tutti i tuoi documenti sono stati bruciati, le radiografie che attestano che tu hai un cuore, due polmoni e quant'altro, sono stati tutti sequestrati e distrutti. Vuoi dirmi che non esisti? No. Cioè, tu vuoi dire che siccome l'identità esiste nei tuoi cuori, nel tuo cuore. Veneta esiste ed opera, no, nel mio cuore, nella mia società, opera. nei valori civili. Senti una cosa, ma non ho capito se lo riconosci come presidente o no, dopo dobbiamo dare la pubblicità. Allora, oggettivamente è stato eletto purtroppo da un Parlamento. Purtroppo non lo so se sarà migliore o peggiore, lo ricordo quando è stato ministro della difesa e non ha dato bella prova di sé, ma non so se sarà migliore o peggiore di quel Napolitano che ha portato l'Italia a livelli del 1921. Veneto Veneto contro Toscani. E con noi Franco Rocchetta, figura storica, Parenzo, della, dell'indipendentismo veneto. Voglio subito chiedere quanti giorni di carcere ha fatto per quella storia là assurda, secondo me, dell'attacco all'unità dello Stato, eccetera, il terrorismo. Rocchetta, quanti giorni ha fatto in tutto lei? Un paio di settimane. Allora, vogliamo chiedere a Rocchetta un giudizio sul signor Toscani. Lo vuole portare in tribunale? Non so cosa farò io, non so cosa faranno le migliaia di veneti che si stanno organizzando con i loro avvocati. Certo che il problema è grave, più che essere un problema per il Veneto, è un problema per lo stesso Toscani. Perché? Perché lo stesso Toscani è cresciuto, è nato, si è fatto un nome grazie alle imprese venete. Ha lavorato nel Veneto, è stato retribuito, pagato a peso d'oro, riuscendo a vendersi, a presentarsi molto bene, in questo è stato molto abile. Dunque? Dal 1982 al 2000, quindi per 18 anni è cresciuto, si è fatto un nome a spese di Veneti, perché poi le sue campagne erano a dir poco di cattivo gusto e controproducenti. Poi ma secondo lei c'è qualche reato in ballo? L'istigazione all'odio razziale è un reato in tutto il mondo. Che cosa ha fatto? Ha additato un intero popolo, non una persona, non lei o me o un mio cugino o un suo caro, sì, caro sì, amico. I veneti. Ha indicato un intero popolo, insistendo sistematicamente, tutti i veneti, non alcuni, tutti i veneti, l'intero popolo veneto, l'ha detto e l'ha ripetuto, l'intero popolo veneto, addirittura le madri, i padri, le nonne, gli avi, sì, sì. Ecco, come ubriaconi atavici. Ubriaconi atavici. Allora, se ma non è, secondo me non è un'offesa, però perché è un'offesa? Gente che beve tanto, uno potrebbe dire, no? Persone che bevono tanto, che sono abituate a bere tanto. Assolutamente no. C'è, allora, Toscani è come il vostro collega Cazzullo, come moltissimi altri uomini che operano nel campo dell'informazione. Sono imbevuti di propaganda nazionalista italiana. E cioè, considerano i veneti di minus abens, diciamo, sostanzialmente, lei dice. Lo Stato italiano considera i veneti da più di 50 Ma lei come lo considera, la Toscana? Mi scusi un momento. Sì. Lo Stato italiano considera i veneti molto pericolosi perché la civiltà veneta è antitetica, è molto più avanzata, è molto più equa, non è la società del malaffare. Cioè i veneti sono più virtuosi degli italiani, vuole dire lei? Non è che siamo più virtuosi. Lei l'ha detto. Sto dicendo, la nostra è una società fondata sul diritto. Gli scandali del Mose c'erano pieno di veneti che rubavano a mani basse, Ronchetta, cioè non è che... Ma allora il mio primo processo risale a 45 anni fa. 45 anni fa ho portato in tribunale il sindaco di Venezia, Veneto, e l'intera classe. Però scusi, Rocchetta, le voglio fare una domanda. Democristiana. Ma per lei che cos'è? Mi scusi, perché dobbiamo. No, voglio capire per lei Toscani che cos'è? Un cretino? Ora glielo dico. Allora ripeto. I veneti rappresentano non come società, come valori civili. Il Veneto può diventare Parenzo se vive, puoi diventarlo anche tu se vieni a vivere. Parenzo ha rinnegato il Veneto, praticamente. Ma io sono rinnegato mai. La nostra vivo società a Roma, è fondata sul diritto. Sì, chi però... sbaglia nella società, mi scusi. Allora, io 45 anni fa ho portato l'intera classe democristiana in tribunale. Erano veneti corrotti perché seguivano il modello italiano. Seguivano il modello italiano. Se uno segue il modello veneto, invece non è corrotto. Galan e Orsoni sono certamente veneti, ma sono la nostra vergogna. Perché hanno seguito il modello italiano, si ispirano a Roma, diciamo, si ispirano al centrale. Ma non a Roma, si ispirano alla politica di saccheggio dei Savoia, si ispirano alla prima guerra mondiale. È curiosa questa teoria. Se uno invece si ispirasse alla Repubblica Veneta non ruberebbe. Va bene, Rocchetta, però io le voglio chiedere una cosa. Lei come considera Toscani? Un cretino, un imbecille, uno che si vuole fare pubblicità? Me lo sto chiedendo, perché il problema non è dei veneti, il problema è di questo Toscani che non sa quel che dice. E non lo so come lo risolverà. È un incitamento all'odio il suo. Incitamento all'odio razziale. Bene, grazie Rocchetta, buona serata. Grazie. Ciao. Anche a voi. Però la cosa più bella di oggi è il ritorno di Berlusconi, ragazzi. È il ritorno di Berlusconi. Beh. la battuta su Rosy Bindi la trovo eccezionale, caro Parenzo. Eccezionale. No, giusto il tuo amico Gad Lerner si può incazzare dicendo: se fossi stato nella Bindi gli avrei dato uno schiaffone a quel, schiaffone, a quel, no, a quel cafone, a quel cafone. Ma non era di, non era di buon gusto, dai, ma perché sempre su queste cose? Ma è Berlusconi, ma è Berlusconi al massimo livello. Se non c'è il cavaliere, qui moriamo tutti, deve tornare a battagliare, a dire la sua, a barzellette. Nuovo stile, allora, stile recuperiamo, recuperiamo quello che ha detto, recuperiamo quello che ha detto. Adesso, mitico Siparietta ha incrociato la Bindi e ha detto: ho visto che lei ha versato tante lacrime di commozione, non ci aspettavamo da un uomo, pardon, una donna, come Bindi, tante lacrime. Beh, ragazzi. E come dimenticare quello che disse in una barzelletta durante una visita all'Aquila, te lo ricordi? Come? Con successiva bestemmia pure, un po' coperta, ma bestemmia c'era. E il cavaliere lo dice al maschile e fa la cosa che si balla. Io per esempio dico Margherita e la gente fa Margherita, ma infatti io dico Rosa, lo penso nuovo di un fiore, faccio una lacrima con due amiche e uno va solo prima e dice Margherita, Margherito. Allora verso l'altra dice Rosa, e l'altro Rosa, verso l'altro va verso la Rosy Bindi un po' coperta nell'ombra e dice orchidea, se ti viene la piede la guarda e fa porco Dio. Una cosa. Beh, come dimenticare anche l'intervento da Vespa di Berlusconi, te lo ricordi? Sì, vabbè, quello è mitologico, scontro Bindi Berlusconi. Sento parlare la signora Rosy Bindi. Sì, dice che è gravissimo, è sempre, quello che lei sta dicendo. È sempre più bella che intelligente. No, la prego, la Presidente, la prego. No, non mi preghi, ma io dico, mi sono stancato di essere cortese con Presidente, persone che sono sempre cortesi con me. Presidente, io sono quindi, una donna signora che non è a sua mi interessa nulla di quello che lei eccepisce. Sono una donna che non è a sua disposizione e prego, ritengo molto grave. La prego, le affermazioni la prego, che lei questa sera ha fatto. E va bene, lei la pensa così, gli italiani, lei vedrà che gli italiani la pensano in una maniera diversissima da lei. Va bene? Presidente, mi scusi, vedremo, quali Presidente. Saranno? Vabbè, è tornato il Berlusca sulla Bindi, significa che ci siamo, che ci siamo. Stanno per scadere i termini di custodia, chiamiamoli così. Accetta lezioni da lei, chiaro? Cruising down the motorway, got my girl by my side. Dobbiamo smetterla. Va bene, la. Allora, ieri sera abbiamo appreso che Renzi e Verdini si sentono telefonicamente alle 6 di mattina. Sto parlando di Renzi e di Verdini, lo ha detto la Biancofiore. Adesso uno può anche non crederci, ovviamente, però mi sembra che oggi non sia stato nemmeno smentito. Cioè, alle 6 di mattina il signor Verdini, odiato dalla Biancofiore, impugna il telefono, oppure il contrario, e si sente con Renzi. Questione che anche a Verdini qualcuno aveva sacrosantamente detto, al di là perché poi non lo caccio io, lo caccia Berlusconi semmai e non vediamo se ci sono le motivazioni per farlo, ma ribadisco il concetto, qualcuno aveva fatto credere a Verdini, col quale ha un rapporto quotidiano, ogni giorno alle 6 del mattino si sentono Matteo Renzi e Denis Verdini. Tutte le mattine alle 6 si sentono? Tutte le mattine, non credo che tutte le mattine alle 6, neanche, ma chi telefona? Non credo che si senta neanche Renzi con sua moglie Matteo Renzi tanto spesso. Allora, scrive il tuo amico Lerner: reso euforico dall'invito al Quirinale, Berlusconi si è avvicinato a Rosy Bindi e le ha detto: visto che ha versato lacrime di commozione, non ci aspettavamo da un uomo, pardon, da una donna come Bindi, tante lacrime. Rosy Bindi ha risposto prontamente: io mi aspettavo da lei che fosse diventato un po' più galante. Il leader azzurro ha sorriso e le ha fatto il baciamano. Signora, io sono sempre galante. Commento di Lerner: suppongo che Rosy Bindi abbia provveduto a lavarsi la mano subito dopo. Capisci, no? Secondo, certo. Secondo Lerner Bindi si doveva lavare la mano. Lavare la mano. La battutaccia, dai. Ma perché? Invece lavarsi la mano perché ha incontrato Berlusconi, perché incontri Berlusconi e dai la mano a Berlusconi. Avrà invece risposto pan per focaccia. Confesso, no? Che al posto suo avrei tirato una sberla a quell'incorreggibile cafone. proposito di mano lavata, beh, nei giorni scorsi c'è stato questo incontro clamoroso in tribunale tra due arcinemici, come quello tra Bindi e Berlusconi, Luciano Moggi, Massimo Moratti. Ci sono varie interpretazioni su questo incontro in tribunale, i due si sono stretti la mano, hanno parlottato un po', eccetera, eccetera. E a un certo punto Moggi ha mandato oggi un tweet: mi sono lavato la mano. Anche lui? Sì, anche lui. Moratti risponde: la mia opinione peggiora. Salvini a Radio Padania: non sono la cerimonia, quella di insediamento di Mattarella. Matteo Salvini, buongiorno Matteo. Buongiorno, ma io pensavo fosse qua il discorso di insediamento. Perché no. Noi ti avevamo invitato già da qualche giorno. Prima arrivava meglio alloggio. Ah, quindi ti è arrivata l'invito per appunto... No. Come no? No, non lo so, mi ha detto... Mi ha chiamato un giornalista prima di fare... Ma sei di fianco a Berlusconi? Perché no, sono di fianco a Morelli. Salvini se n'è fottuto e non è andato all'insediamento del Presidente della Repubblica. Nessuno mi ha telefonato. Ma se vuoi lo guardiamo anche tutto in diretta, visto che immagino che ti mandi. Che il Quirinale ha detto che ha mandato una mail sabato sera tardi a Bruxelles. Ah, fanno gli inviti così. Una mail. Le mail sabato sera tardi a Bruxelles. No, che sabato sera tardi a Bruxelles ovviamente c'è un accrocchio di gente che... Devo dire una cosa, che poi pare che Salvini abbia fatto una battutaccia su Livia Turco, definita da Salvini a Radio Padania una befana di Torino. No, mi sembra, mi sembra. Ma perché regna il cattivo gusto? Io non capisco. Malgioglio, l'incredibile racconto di Cristiano Malgioglio. Belen Rodriguez mi ha dato un bacio sulla lingua, con la lingua, anzi non sulla lingua, un bacio con la lingua, e io ho vomitato per una settimana. Ragazzi, non ci si crede, Cristiano Malgioglio baciato da Belen Rodriguez, quasi a sorpresa, dice lui, con la lingua infilata lì, insomma una limonata tra Cristiano Malgioglio e Belen Rodriguez, e lui ha vomitato una settimana. Ma una volta, una volta veramente è successo con Belen. Sì, ho baciato Belen e ho vomitato per una settimana. Per una settimana. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Mattarella giura davanti alle camere: sarò un arbitro imparziale, ma i giocatori mi aiutino, la crisi ha aumentato le ingiustizie, serve un'Italia più solidale. Combattere la mafia è una delle priorità indicate da Mattarella come una lotta contro il terrorismo, il ricordo del bambino ucciso davanti alla sinagoga. Da Montecitorio al Quirinale, il nuovo capo dello Stato, prima all'altare della patria, poi l'arrivo al Colle, il saluto di Napolitano e Grasso. Berlusconi, d'ora in poi voteremo solo quelle riforme che ci convincono. Ancora una gaffe con Rosi Bindi che replica sia più galante. Una email del Movimento 5 Stelle apre a Mattarella: benvenuto, è ora di voltare pagina. Salvini non va al Quirinale, il presidente non mi rappresenta. Renzi incontra Alexis Tsipras: la vittoria di Syriza è un messaggio di speranza contro la crisi. Io e Alexis diversi, ma il mio supporto in ogni sede. Diffuso dall'ISIS il video dell'esecuzione del pilota giordano tenuto prigioniero, è stato bruciato vivo in una gabbia. Paura in Francia, accoltellati 3 militari. Allora, correzione, pare che la befana sia stata data alla Turco da un ascoltatore di Radio Padania. Beh, stesso stile comunque. No, ma non alla Turco, tra l'altro, alla Fornero, credo. Comunque sentiamo, io l'avevo preso dal Fatto Quotidiano che aveva ricostruito tutta la vicenda. Sono arrabbiato perché mi avete obbligato ad ascoltare sto coso che ha parlato stamattina. Dai, presidente! Hanno fatto vedere quella fenomena della come si chiama pure lei, quella di Torino, guarda, allucinante. Chi è? Ma befana! La Livia Turco! No, poverino, quella lì no, la Fornero. Ah, la Fornero! Porca loca! Pesci in faccia, altro che pesci, grazie. vuoi chiedere scuse ai veneti? Vuoi chiedere scuse ai veneti? Scusa? No, no, se no non sei più, non sei più. Ti disconosco se vuoi chiedere scuse. Voi che dovete chiedere scusa perché siete diventati peggio della Radio Vaticana. Noi. Voi. Siete diventati più. Siete riconosciuti di più di una. Siete la radio della morale e dell'etica italiana. Noi della morale! Noi della morale. Questo sì, non... ormai voi siete riconosciuti non più come una radio di satira, ma siete la radio ufficiale del pensiero italiano. No, ma scusa ragazzi, un attimo, Olivero, ma se io sono quello che. Fare una radio così. Bigotta. Ma come bigotti? Ho attaccato il Vaticano dicendo che non si devono permettere di dire che la chirurgia estetica non va bene per le donne. Dai, Oliviero, su. Hai ragione. Ma ti pare possibile che il cardinale anche il Vaticano, che Ravasi, questi hanno la devono smettere di rompere i coglioni. Come ha ragione Ravasi? È logico, le donne, il burka delle donne, la chirurgia estetica, dai, non c'è da fare. Sono i grandi marchi e la chirurgia estetica. Cioè ha ragione Ravasi. Burka delle donne occidentale. Ha ragione Ravasi quando ha definito la chirurgia estetica il burka di carne. È un uomo intelligentissimo, non a caso è di Milano e parla con l'accento un po' milanese. No, ma dai, adesso stai ironizzando o stai dicendo sul serio? No, sto dicendo sul serio, volevo fare tutta una campagna su questo e non sono stato aiutato da tutte le donne liftate. Cioè tu sei contro la chirurgia estetica? Sì, da mo. Ma lo è, ma scusa, perché uno si mette una maschera, no? Una così si mette una maschera, scusa. Vabbè, ma ho capito, ma se uno si vuole rifare la bocca, si vuole rifare la faccia, si vuole rifare le labbra. Ma vuol dire che non si piace, quindi ma chi se ne frega? Sì. No, ma libertà. Ma la libertà è sempre la cosa. No, ma perché il Vaticano. Anche la libertà di espressione. Il Vaticano trasforma questa cosa in una campagna contro la donna, dicendo che l'immagine della donna non va bene, che la donna deve essere di un certo tipo. Capito qual è il punto? Se lo dici tu, che sei contro. Deve essere vergine e madre, è logico. Capisci? Vabbè, comunque, vuoi chiedere scuse? Veneti o no? Non ho capito. Sì. Ma io chiedo scusa. Io non penso di aver detto niente di male, perché ci sono anche delle ricerche, delle vecchie statistiche che dicono che no, il Veneto era una regione molto povera, non so se voi lo sapete, sì. Ma era poverissima, e forse l'unica ricchezza di certe famiglie, neanche di tutte, era la medicina, era il vino, era la grappa. E davano questo anche ai bambini per curarli. Quindi io ho parlato di alcolismo atavico, cioè che viene. Ma ho capito. Sì, però detto così. Allora c'è gente che si è incazzata, ti vuole portare in tribunale. Chiedi scusa, cittadini, dai. Ma io chiedo scusa per quelli che non hanno capito la satira. Poveretti, non capisco la satira. Chiedo scusa per loro. Per la loro stupidaggine, tu dici? No, stupidaggine, ma del loro. Allora, il governatore Zaia. L'ho visto oggi alla Camera. Niente da far, Benedetto. Cioè, in che senso non c'è niente da fare? No, allora io dico una cosa. Che è stupido? No, che non c'è niente da fare. Se curo una. Non c'è niente da fare, dici? No, una stupidaggine. Non ha tempo da perdere, dici? Senti, io dico una cosa. Alzi la mano. Veneto. Che non ha mai dato del terrone a un italiano del sud. Dopodiché accetto. Devo dire la verità. Su questo però Oliviero ha un po' ragione. Cioè lui ha detto i veneti sono tutti ubriaconi, atavici. Sono tutti ubriaconi. Così hai detto, un popolo di ubriaconi, hai detto Oliviero. Risentono dell'influenza. Vabbè, ma ho capito, quello hai detto alla fine, dai, su. Poi, come tu dici, come i veneti dicono dei meridionali che sono terroni, giusto? Sì, uguale. Dimmi un veneto che non ha mai insultato un uomo del sud. O come i meridionali che danno dei polentoni. Un immigrato, che non so se vi ricordo, o voi, o io non polentone, o gli immigrati, vi ricordate? Gentilini, no? Non sì. Vi ricordate? Vabbè, non è che Gentilini però rappresenta tutti i veneti, Un sindaco. Però scusami, allora tu mi stai dicendo non devo chiedere scusa a nessuno? No, non penso, perché non penso di aver offeso niente, una cosa molto banale alla fine. Molto banale, cioè scontata, è una cosa vera. Un pochettino più senso degli umori, insomma, è una radio di satira o no? Vabbè, ho capito, però in questo caso stiamo parlando anche quando tu dici i veneti sono atavicamente ubriaconi perché gli avi, eccetera, eccetera. Ma se vuoi ti faccio una fotografia. Di che? Di ogni dialetto italiano. Della? Di ogni dialetto italiano. Aspetta, aspetta, aspetta, adesso ci ricolleghiamo un attimo, ragazzi, non si può fare il collegamento Toscani così, un attimo solo che c'è la borsa, eh. Poi torniamo subito, Oliviero Toscani che non chiede scusa, un po' a sorpresa devo dire, pensavo che volesse chiedere scusa, invece dice devo chiedere scusa solamente a quelli che non hanno capito, e in realtà c'è del vero in quello che ho sostenuto ieri, l'altro ieri, quello che era la zanzara. Tu che parli sempre di omosessuali, non è che, ma infatti ti vedo bene te coi tacchi in rossetto, devo dire, non ti dica male. You'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Pronto, buonasera, dottor Cruciale. Io l'amo sempre, lei è l'uomo ideale, e se fosse una donna io le farei una corte sfilata. Vi siete commossi, dai, dite la verità, non fate i soliti veneti ubriaconi. Ha ragione Toscani, veneti, popolo di ubriaconi, atavicamente alcolizzati. Ma come fa uno a dire certe cazzate? Stasera vado a Ballarò sul tardi, 22.45, Ballarò. Ballarò, e c'è anche Oliviero Toscani, l'amico dei veneti. Veramente? Sì, sì, quello che allora... i veneti, io l'ho già querelato due volte, no? Oliviero, era Salvini, Era Salvini. Ah sì, è mio amico, è logico. Ma devo ancora ricevere la querela. Comunque, farò un libro di tutto questo. Come un libro? Insulti ricevuti dai veneti. No, siccome oggi ho ricevuto centinaia. Bella, bella sta cosa. Tremendi, tremendi. Cioè, cosa ti hanno scritto? C'è mia madre che si è rivolta nella tomba, povera donna. Farai un libro con tutti gli insulti ricevuti. E poi vedremo chi è più maleducato. Io o quelli che mi ha scritto. Comunque ci sono alcuni parlamentari veneti della Lega che dicono che ti devi sciacquare la bocca prima di parlare di Veneto. Vabbè, sciacquare col prosecco, però ma in questo modo insisti, però il prosecco è buonissimo, ragazzi. Ma dei tribunali te ne fotti tu, immagino. Sciacquarti la bocca col prosecco, ma io devo dire che ho già vinto una casa contro la Lega, insomma, tengono attenti. Quindi dico, quando dissi che non era un partito ma era una diarrea, sì, avanti 10 anni, fui assolto. E come hai fatto a dimostrare che... Vabbè, adesso non entriamo, Non dovevo dimostrare io, l'hanno dimostrato loro, scusa. Non so, io non ho niente a dimostrare. Comunque, vabbè, nessuna scusa? Tu dici scusa, non devo scusarmi di niente, non so cosa ho detto di male, assolutamente. Ho detto dunque, come risponde al governatore Zaia? Come risponde al governatore Zaia che ha detto di tacere? Ha detto di tacere, tacere. Ma no, ma ci rida sopra, era un popolo... che rideva, il popolo veneto, era divertente, adesso mamma mia che code di paglia, ma no, ma si diano una calmata, era una battuta sulla quale c'è da riflettere, devo dire che anche, in realtà è anche un po' vero, insomma, per quello si sono offesi. Prima di parlare Tasi, ha detto, prima di parlare Tasi, ha detto Zaia. Pensa che intelligenza, ma roba da me, prima di parlare Tasi e poi parli, no, è logico. No, ma era rivolto a te, volta, però, era rivolto sì, a te. Sì, no, ma una volta si scherzava. Insomma, Zaia ha detto di scusarti e tu non ti vuoi scusare, sì. Questo è il punto, vabbè. Non mi scuso, poi no, se te lo dice Zaia. No, ma poi questa storia, vedi, ti ha mandato da mangiare, tutto, ma ho provato, se non fossi stato bravo non mi avrebbero preso. Sì, pagato. Molti dicono questo. Allora, l'ho fatto diventare famosa anche una certa... delle certe marche venete in tutto il mondo, insomma, anche per certe cose di cui ti dovrebbero ringraziare, dici tu. Ma no, io non dico niente, sono loro che dicono che io devo ringraziare. Ma devo ringraziare cosa? Ho lavorato seriamente, ho fatto quello che potevo fare di meglio, non ho nessuna... Devo dire che in fondo è stato riconosciuto nel mondo quello che ho fatto, no? Devono essere fieri. Hai reso... Anzi, quando ero bravo così dicevano, sei veneto. No, non sono veneto, sono di Milano. Tanti dicevano sei veneto, no, non sei veneto, Toscani, cari ragazzi. Va bene, ciao. Di Milano. Ciao ragazzi, Oliviero, ciao. Saluto a tutti i veneti e tanta salute, cin cin. Ciao. Cin cin. Oh, ragazzi, io pensavo che volesse chiedere scusa. Col cazzo che ha chiesto scusa, Col cazzo che ha chiesto scusa, diciamo la verità. Col cazzo. Emanuela, Firenze, vai. Sì, ciao Giuseppe. Andare dopo la Lega che insulta tutto il mondo tutti i giorni e sentire che loro si offendono. Io poi sono di Latina, dove vivo a Firenze, sono di Latina dove sono tutti veneti, e la mattina tutti fanno il cerchietto alle 8, quindi è risaputa questa cosa, ma comunque non mettiamo la polemica. Vabbè, non tutti, io non è che io sono veneto, ma non è che ma bevo alle 8 tutti, del mattino, cara che... Emanuela, insomma, però... Attenzione, ma loro che offendono dalla mattina vabbè, alla ma sera. Ma che vuol dire offendono dalla ma mattina alla sera? Era una battuta, dai, era una battuta. E loro si stanno risentendo perché uno gli dice che sono ubriaconi, ma fatevi una risata, ma insomma, loro non manca l'ironia e la vogliono dagli altri quando offendono. Vabbè, comunque io non chiamavo per questo, chiamavo perché il caro Giuseppe Cruciani, il caro Davide Parenza, che vi ascolto sempre allora, su altre radio. Gli zingari che tu, Cruciani, ce l'hai tanto, veramente io non ho capito proprio se vai oltre. Ma il fatto che un assessore dice facciamo, troviamo un modo di farli sì, lavorare, allora bravo. Tu dici no, sono ladri, ma questi sono ladri perché non hanno lavoro. Tu prova a parlare con uno zingaro. Ragazzi, non diciamo stronzate, dai. Non diciamo stronzate, non diciamo stronzate. Non diciamo stronzate, ma che c'entra? A me non me ne frega niente se è zingaro o non zingaro, cioè non me ne può fregare di meno. No, però Emanuela ha ragione, cioè il ragionamento è un altro. Se uno si presenta da me con le pezze al culo, non gli do il lavoro. Dipende cosa sa fare, no? Tu dici che sono ladri? Gli si trova. Ma io non ho detto che sono lavoro. Attenzione, io non ho detto che sono ladri, ho detto che sempre. Aspetta, ma Emanuela, innanzitutto non è vero. Io sto anzi, al contrario, chi dà del ladro agli zingari è proprio l'assessore Di Marino, che dice siccome sono abituati esatto. a fare certe cose, siccome no. sono bravi a recuperare no. materiale in disuso. Ecco, questo è un talento. Materiale in disuso è un talento. Non è rubare. Non è rubare. No, come ma loro sono brava Emanuela, cioè rubano il rame, rubano il rame, rubano il rame ovunque. Hanno delle abilità, questo. Seppure loro legate al furto. Sottrai. Senti, allora ti dico questo. Emanuela. Io, la prima inchiesta che ho fatto nella mia vita come giornalista vabbè, ma adesso che c'entra questo? È stato sugli zingari. Vabbè. Perché li odiano tutti a prescindere. Guarda, io non sto dicendo questo. Sto dicendo, lasciamo perdere il discorso odiare, non odiare, le etnie sono ladri, non sono ladri, ladri atavici, come direbbe Toscani. Il punto non è questo. C'è un assessore a Roma esatto. che vuole creare una cooperativa sì. di zingari. Bene. Sì, una cooperativa di zingari per la raccolta differente. E parte... cioè, ma scusa, hanno perché un talento. Che facciano questo? Ragazzi, ma siete impazziti. Ma no, ma siete completamente pazzi. Ma è intelligente invece. Allora, ragazzi, ribellatevi a questo politicamente corretto. Ma che politicamente corretto? È il contrario. È il contrario del politicamente corretto. Vabbè, invece. È il contrario, vabbè. È esattamente il contrario. Il tuo è mainstream assoluto. Il tuo è senso comune cattivo. Un canale preferenziale per gli zingari. Non benissimo. Preferenziale, come questi no? hanno un talento. Ma quale talento? Ma che cazzo hanno dico? Un talento, sanno fare. Ma quale esatto, talento? Ha ragione Manuel, loro sanno riciclare i rifiuti, sanno riciclare i rifiuti. Come no? Hanno un talento. Va bene, ragazzi, ho capito benissimo. Comunque, ho capito benissimo. Volevo solo concludere. Dai, una forza, cosa. Veloce, dai. In Albania sono anni che tutta la raccolta differenziata è affidata agli zingari. Ma vedi che sta stupendo. Al Cairo c'è un quartiere intero al Cairo. Cioè, non interessante. Ci sono ragazzi, è una follia inaudita. Lavoro a chi fa dei concorsi, fanno le cooperative per fare la raccolta differenziata. A parte la raccolta differenziata la dovrebbe fare l'azienda municipalizzata di Roma con gente strapagata. La facessero loro. Poi le cooperative, gli zingari, vediamo. Mauro, provincia di Lucca. Grazie. Mauro. Sì, buonasera. Chiamavo per dire, soprattutto al signor Parenzo, che la satira o è sempre satira oppure no, perché quando per anni abbiamo sentito parlare del nano Brunetta, lui era uno di quelli che rideva. E lui e i suoi compagni. No, io alle volte dico sui difetti fisici mi sembra. E si mette a ridere un sacco di volte anche tu. Non fa ridere. Brunetta, quella comunque è la satira Brunetta, politica, ma non. Ma che satira? Nano è una satira. Infatti sui difetti fisici, secondo me. Hai riso un sacco di volte su. Sì, ma dico, posso anche aver sbagliato su questo. Ma Berlusconi è nano e la Sant'Anchè. Allora, la Bindi che è brutta, guai se stracciate le vele. La Sant'Anchè che si rifà, no, quella invece andava bene. Via, fate ridere. No, fate ridere, fa ridere lui, io non faccio ridere no, manco ma per niente. Però, non credo ridere, che troverai mai una mia cosa sulle difetti ridere, sulla questione Brunetta. Dai, non ti arrampicare, dai, ti sei messo a ridere mille volte. Prova a vedere se lo trovi. No, non penso di aver mai detto che quello faceva ridere. Vabbè, altre Mauro, cose allora possono far ridere. Fa ridere non Cruciani in questo caso, dicevo a Parenzo e ai suoi colleghi Radical Chic. Ma cosa c'entra Radical Chic? È un'accusa sì, idiota. È un'accusa stupida. Cosa vuol dire Radical Chic? Anche a quest'ultima signora è un'accusa idiota. Degli zingari. Voi forse non sapete che sono orgogliosi da mille anni Vabbè, ho capito, orgoglioso da mille anni di? Di non lavorare. Sì. E di... No, ma soprattutto una cosa, grazie Mauro, adesso la linea cade, ma la cosa fondamentale è questa. Se per trovare lavoro, me lo faceva notare qualcuno prima su Twitter, bisogna creare un problema, allora siamo freschi. No, perché è un problema, anzi, sì, una risorsa. Sì, perché siccome è un problema, siccome gli zingari provocano problemi, questa è la, come dire, la tesi dell'assessore di Roma, amica mio, siccome creano problemi, allora facciamo una cooperativa di zingari, così risolviamo il problema. No, non è questo il tema. Il tema è prima che se rubi uno Stato punizione. Serio si fa, collo, si fa carico dell'integrazione, perché fa parte di questo. Ora, l'integrazione è alle volte, certo. Cioè, beh, questo fa parte di uno Stato. Uno Stato quello serio, sono italiani, non si devono integrare, devono lavorare stato, come tutti gli altri. Sono italiani, devono lavorare. Uno Stato no, serio sono italiani, integrazione. Devono le lavorare cooperative come sociali tutti gli altri. Servono anche lavorare a questo. E cercare lavoro come loro tutti gli altri. Loro hanno un talento che è quello di lavorare come tutti gli altri. L'immondizia del fare trovarsi riciclaggio, trovarsi il lavoro eccetera. Come tutti gli altri. Vabbè, ma si inventa un modo per trovare con la, per farli diventare utili alla società. Questo è il grande tema. Trovare casa e lavoro come tutti gli italiani. Trovare casa e lavoro come tutti gli italiani. Franco da Treviso. La politica serve a questo. La politica serve a risolvere altri problemi, non questa roba qua. No, perché altri? Franco, anche Treviso. Questi, anche quelli dei conflitti sociali. La politica conflitti serve anche. Sociali. Non Franco esistono da conflitti sociali. Non esistono. Franco non da Treviso. Esistono i conflitti non sociali. Esistono. Certo che non esistono. Non esistono i conflitti sociali. Franco da Treviso. Pronto, pronto, buonasera. Tutto in galera, allora via. Non ho detto questo. Franco da Treviso. La politica è la roba più complessa. Che non, ma fa culo questo, fa culo quello, ma chi se ne frega. Politica è un'altra roba. Non lo sto dicendo va fa culo. Franco da Treviso. Vanno risolti o no i problemi? I nomadi, gli zingari si devono comportare come l'Italia, cercare infatti lavoro come gli italiani, sì, lavoro come, e cercare ma casa come gli italiani, utili in base essendo al loro italiani, talento, diciamo, essendo italiani, in base non me ne frega talento. Niente, la cooperativa per i ladri, capito? Franco da Treviso, perché dai, ladri, magari ladri, non diventano ladri, più ladri, quando rubano il rame sono ladri, Franco da Treviso, dai. In alcuni casi, quando rubano il ferro o altre cose, sono ladri lo stesso perché non si può prendere. Eh beh, li si Franco mettono al servizio della società. No, in galera prima, poi galera, al servizio della società. Certo, benissimo, se il galera. Caso in galera, se il caso in galera, mentre se legge lo prevede in galera. I bianchi li vuoi tutti fuori. Franco, no, io non ho in galera pure hai quelli. Hai sempre detto no, Franco non è reato, ma chi se ne frega, sempre il carcere. Franco da Treviso, vai. Buonasera. Volevo dire al signor Toscani che intanto, visto che siamo a Carnevale, Stenterello c'ha le macchie di vino toscano, non colombina, primo. No, non ho capito, non ho capito. Siccome parla di ubriaconi atavici, sì, Stenterello sì. Largo di mano, qualche macchia di vino toscano, dice la poesia. Quindi che si guardi bene le origini, come sono, di chi ha le macchie di vino addosso, visto che parla di atavici. Ah, tu dici è lui che è ubriaco. No, sì, appunto, primo, secondo, quando non c'è peggiore infame di quando qualcuno prima viene a mangiare e poi sputa sul piatto dove ha mangiato. Perché chi era prima che venisse a lavorare con Benetton il signor Toscani? Beh, ha appena sentito da Toscani un'altra cosa. Fate un'indagine e chiedete prima che venisse a lavorare con Benetton chi cazzo lo conosceva il signor Toscani. Vabbè, ma questo che c'entra? Uno ha lavorato, ha fatto il professionista, ha lavorato per Benetton. Ha fatto il professionista. Eh beh, certo, che c'entra? Da questo punto di vista non è che uno lo si può accusare siccome ha lavorato con Apparenzo se gli puliscono la casa gli zingari, magari poi cambia idea, magari così magari. Ma non succede mai ai buonisti, no, così, mai. Che gli puliscono la casa, no, perché ho un accordo, mentre dorme così, ho un accordo con gli zingari, ha un accordo con gli zingari, ho un accordo, ovviamente è ironia questa, no, l'abbiamo capito, ho fatto no, perché sai qualcuno poi dopo chiama, no, ho fatto un accordo con gli zingari, mi hanno visto in metropolitana l'altro giorno, no, qui è Parenzo buono amico nostro, non rubare, non ruba Parenzo amico nostro, ciao Franco, ciao. Ed è con noi l'ex governatore della Lombardia, nonché senatore del nuovo centrodestra, Roberto Formigoni. Buonasera, buonasera. Come sta? Come sta? Bene, benissimo, grazie. Allora, lo sto frequentando più della mia compagna Formigoni. Addirittura. Sì. Oggi siamo stati tutto il giorno insieme, praticamente. Tutto il giorno insieme. Tutto il giorno no, ma qualche tempo sì. L'ho visto più. Io guarda, sono uscito stamattina alle 8 di casa. Ancora non sono tornato. Posso dire che oggi sono stato. Non è strano per chi lavora. Ma posso dire oggi che sono stato più con Formigoni e Pomicino che con la tua piuttosto compagna. Con la mia compagna. Questa è la notizia di posso dirlo tranquillamente senza immagino che hai fatto smentita. Un servizio sulla DC che ritorna sui miei amici della DC, sulla sì. DC che ritorna. Anche signor Castagnetti ho intervistato oggi. Ecco, tutti allora, ma io vorrei sapere subito da Formigoni, tutti. È vero o no che quando nell'imminenza dell'elezione di Mattarella sì. Lei cantava insieme ad altri di fronte a quelli dei 5 Stelle attoniti sì. E quasi, come dire, sbigottiti. sbigottiti, sbigottiti. Che cos'è che cantavate? È assolutamente vero, ho intonato un corretto estemporaneo, viva la DC, viva la DC. E com'era quando... sto corretto? Com'era? Ma no, era viva la DC, viva la DC, viva la DC. Era una cosa evidentemente ironica. Avevo di fronte questo gruppo di 5 Stelle che hanno spalancato gli occhi come fanali, erano assolutamente sbigottiti. Ma lei se lo ricorda il vecchio inno della DC, Formigoni, com'era? Biancofiore. È tornato, si può dire che è tornato un po'? Beh, perché no? Un po' è tornato, evidentemente non la DC come partito. Tutti i democristiani, come Mattarella, Renzi, tutti. Mattarella. Com'è che faceva Biancofiore? Com'è che non era Biancofiore, però. No, non era Biancofiore. Non era Biancofiore. No, perché... Onestamente non me lo ricordo. Non si ricorda Biancofiore. La mia militanza nella DC è stata limitata. Perché... Però mi scusi, io la devo. Io sono metti la canzone. No, scusi, sono ferocissimo. Adesso la dopo la metto così se la ricorda pure Formigoni. Però, caro Formigoni, qui c'è stata una cosa incredibile. Io prendo un suo tweet, io la seguo su Twitter in maniera molto come dire costante. Lei ha scritto in un momento dell'elezione del Presidente della Repubblica, esattamente il 30 gennaio. A di notte, credo alle 2:30, se non sbaglio, o di mattina, capita. No, forse di mattina, non mi ricordo. Io qua c'ho scritto 2:25. Aspetta, aspetta. NCD non vota e non voterà Mattarella. Scheda bianca. E poi una valutazione sul governo Renzi. Non vota e non voterà Mattarella. E quella era la valutazione dell'NCD in quello momento. Vabbè, ma ho capito, non però. Non era il mio pensiero. In quel momento NCD aveva deciso di non votare Mattarella. Io arrivavo a Roma. Perché non ho partecipato alla prima votazione, come si può vedere dai tabulati. Allora? Arrivavo a Roma per la seconda votazione e prendevo atto che il mio partito aveva deciso di non votare Mattarella né per la seconda né per la terza. Scusi, però non si può passare da non vota e non voterà Mattarella a cantare l'inno della DC di fronte ai 5 Stelle. Uno ma può dire pure, no. Avete calato le braghe per qualche strapuntino di governo. NCD non vota e non voterà Mattarella né nella seconda né nella terza votazione, di tanti non l'abbia votato. La cosa era limitata evidentemente a seconda della terza. Ma no, ma quello è chiaro. Poi, dopodiché, poi avete cambiato idea, però. Perché Renzi ha fatto la telefonata al Fano, gli ha detto o Mattarella o il governo. E come no? Renzi ha riconosciuto l'errore, ha fatto un appello dicendo come che Mattarella ha riconosciuto l'errore di metodo che gli contestavamo. Ma di non avere, mi pare che ha riconosciuto l'errore. Ma come no? L'appello che ha fatto nella giornata di venerdì. Stimolato da molti di noi, anche da me che ho parlato con alcuni suoi emissari, dicendogli devi allargare il fronte del significato di Mattarella presidente, non solo come uomo del PD, ma come uomo della maggioranza, come delle riforme, come uomo del governo. Formigoni, la realtà è una la realtà. Sì, ho capito, la realtà è una. No, la realtà. No, questa è una ricostruzione. Credetemi, non potete mistificare. Questa è la sua ricostruzione. Giuri sullo scudo crociato. No, ti prego. La ricostruzione è una sola, che di fronte... Il fatto è questo, il nuovo centrodestra è diventato, ormai l'ho detto alla gabbia domenica, la nuova costola della sinistra. Lo devo, ormai è così, Formigoni. Accettatela. Non mi sembra che Renzi lo pensi allo stesso modo. Ma come no? Ma abbia una telefonata dal Fano e vi siete rimessi in riga. Ma no, guardi, allora, cominciamo a chiarire. Io non ho nessuna poltrona, quindi avrei potuto tranquillamente votare diversamente. La verità è che Mattarella è un uomo nel confronto del quale abbiamo sempre espresso stima, perché questo dovete riconoscercelo, ma era stato proposto da Renzi con un metodo sbagliato all'interno dell'assemblea del PD come uomo che serviva a rifare. Ma sì, ma questo ho capito, ma voi alla fine... Una volta che Renzi ha chiarito che Mattarella poteva e doveva essere l'uomo delle riforme ma non è di così. Governo, delle riforme economiche, ma quando mai, è cambiato il significato e abbiamo potuto... Ma che è cambiato? Ecco la DC! Questa ecco è la DC! Straordinario, io li adoro! Questa è la DC! Il meglio della DC, certo. La cultura politica della DC, ma non è capace di cambiare i connotati della realtà. Ecco, appunto! Appunto. Bravissimo! Io questo è bellissimo! Capace di cambiare! Capace di ribaltare con il ragionamento, come direbbe De Vita. Guarda, c'è questa cosa, e questa devo dirla a Formigoni, se c'è una cosa che mi fa godere in questa fase politica è proprio questi 5 Stelle attoniti, perché è tornata questa straordinaria DC, no? Con questo linguaggio, le liturgie, stupendo, il cappotto all'Oden grigio, bellissimo. Sì, ma ha chiesto la verifica, ma tanto... La verifica? No, amico mio. Superiore di chiedere la verifica, ho usato volutamente il linguaggio della Prima Repubblica per far innervosire Renzi, che difatti ha cominciato a fare dichiarazioni aravatica. No, la verifica no, Formigoni, la verifica, ma gli italiani non vogliono la verifica. Ma gli italiani la inseguono con i forconi, la verifica. La verifica, ma la verifica è un linguaggio intrapolitico. Gli agli italiani. Appunto. È giusto che non sappiano cos'è la verifica, ma all'interno dei rapporti tra le forze politiche, certo, è giusto che ci sia la verifica di quali sono i rapporti. Bellissimo. Perché non si può, vede, governare insieme se non c'è lealtà. Ma scusi, adesso seriamente, le convergenze parallele di NCD e di Renzi si chiamano convergenze parallele. Adesso seriamente, NCD però, Formigoni, seriamente, il discorso è questo: Renzi, lei come lo considera? Un arrogante, diciamo la verità, con voi, si è con voi in generale in questa vicenda si è comportato, uno può dire, da arrogante. Addirittura Cicchito ha detto che vi ha messo il piede in faccia. Cioè, cominciamo a riconoscere che Renzi è un genietto. Questo è un genietto, sì. È un genietto della politica, è molto abile. Dopodiché, in questo passaggio, non si è comportato bene, perché con l'alleato di governo si concorda il Presidente della Repubblica. Noi gli avevamo detto che poteva benissimo scegliere un uomo del PD, benissimo, si poteva concordarlo insieme. Invece questo fatto di averlo voluto giocare soltanto per l'unità del PD è stato un errore, un errore che è riparabile, che però che va riparabile. Eh beh, certo, sennò dove andate senza Renzi, Formigo? No, in questo momento dove andate? Su, no, dai. Guardi, ma anche Renzi dove va senza di noi? Ha bisogno dei nostri voti per sì, il governo. Però vabbè, avete più bisogno voi che... No, mi creda, guardi, siamo capaci di vivere anche se Renzi decidesse di non governare più. Allora, NCD è un partito che è giustamente attaccato all'uomo che in questo momento distribuisce potere in Italia, che è Renzi, strapuntini, ministri. Mi dica la verità, per quello che è il vostro peso elettorale, avete anche troppo. Avete il ministro degli interni, il ministro della sanità, sottosegretario, il ministro dei trasporti. Lo riconosca, abbiamo troppo o no? No, assolutamente no. Come no? È proporzionale alla forza che abbiamo e al fatto che siamo decisi lì per il governo, altrimenti si sarebbe fatto in un altro modo. Le ricordi che all'inizio avevamo 5 ministri? Nel passaggio da Ma sì, vabbè, ho capito, dai. Noi stessi ci siamo dimensionati su 3. No, ma mi creda, il discorso è molto più serio. È un discorso di rapporti politici. Abbiamo governato bene un anno, vogliamo governare per altri 3 anni perché bisogna aiutare l'Italia ad uscire definitivamente dalla crisi, fare le riforme. Noi siamo pronti a farle. Evidentemente la guida del governo aspetta Renzi, che è il timoniere del partito più grande. Se Renzi ci sta ad un rapporto corretto con ma noi, che, siamo a posto. Corretto, vi regala qualcosina ogni tanto. Se Renzi pensa di fare come ha fatto sulle banche popolari, che noi eravamo e siamo assolutamente contrari, gli faremo cadere il decreto in Parlamento se non lo cambia. Ma perché che fate cadere? Le banche popolari sono banche come del popolo, non si può espropriare. Vabbè, chiederò qualcosa, soliti azionisti. Chiederò qualcosa a Formigoni sulla chirurgia estetica e il Vaticano, che mi sembra più interessante per chi ci ascolta, soprattutto per le donne, perché il Vaticano vuole dare lezioni anche sulla chirurgia estetica a nome di Monsignor Ravasi, dicendo che la chirurgia estetica è il burca di carne, che per le donne non va bene la chirurgia estetica. Mi sembra interessante, mica perché Formigoni magari se l'è fatto qualche lifting ogni tanto. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Formigoni, ecco, bandiere ecco, al vento. Bravi, quello è l'inno. Però scusi, garrisca lo scudo crociato. Però, scusi, Formigoni, garrisca, diciamo la verità. Garrisca. Lei ha prima, per spiegare la giravolta del nuovo centrodestra sulla vicenda del Presidente della Repubblica, ha fatto la supercazzola. Sì. Cioè, veramente una supercazzola pazzesca. Molti su Twitter la definiscono veramente il signor Agnoletti. Ma veramente una supercazzola. È geniale. Senza Renzi, lo dica, senza Renzi non andiamo da nessuna parte. Siamo... Senza di noi Renzi non va da nessuna parte. Beh, il suo governo cade, non ha i numeri, non ma ha sì, la fiducia, ma il fatto che voi non lo potete far cadere perché sennò cadono tutti i ministri. Dove andate senza i ministri? No, guardi, è un patto biunivoco, biunivoco. Siamo biunivocamente necessari. Lui ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di lui. Biunivocamente necessari. Lui ha bisogno di noi, noi abbiamo bisogno di lui. L'Italia ha bisogno del governo che governi, e un governo che governi deve avere una maggioranza sicura. E il famoso centrodestra? E il famoso centrodestra che avete ricostruito con Berlusconi in questa cosa? Che succede? Guardi, con Berlusconi c'era un patto di consultazione. Eh beh, sì, Non si era deciso di andare avanti alla morte. Perché per seguire Berlusconi si va verso la morte, le dici in questo momento. È facile andare. Non avevamo deciso di tenere esattamente lo stesso comportamento di fronte al Presidente. Beh, Berlusconi se lo aspettava. Repubblica. Ha detto che Alfano è un traditore. Molti dicono che è un traditore. Ma si è rimangiato subito la lingua. Ma come traditore? Non è vero. Non è stata utilizzata. Ma come no? Ma è stata utilizzata e subito ritirata perché, perché il vero traditore nel linguaggio di Forza Italia è Renzi, è diventato Renzi, quindi ci ha soppiantato. Si sono sentiti traditi molto di più da Renzi che da noi. Quindi per un paio di giorni ci siamo risparmiati. Ma comunque, la giravolta di Alfano è stata fenomenale. Ma no, è stata fenomenale. Se non ci fosse stato quell'appello di Renzi nel pomeriggio di venerdì, non avremmo votato. Vabbè. Senta Formigoni, ma anche secondo lei, come per il Vaticano, anzi come per Monsignor Ravasi, la chirurgia estetica è una roba terribile, il burka di carne, mi dica la verità. Lei ogni tanto si è fatto qualche siringhina o no? No, non mi ha fatto la siringhina, però questa espressione mi ha lasciato un po' stupefatto, francamente. Non so se sia il pensiero vero di Monsignor Ravasi. Beh, come no? Scappato no, mi sembra che fosse all'interno di un documento. Va bene, le solite cose, comunque sì. Comunque evidentemente no, evidentemente è una forzatura assolutamente. Anche per lei è una forzatura. Ma è ovvio, dopodiché si tratta sempre di vedere se è usata con misura, se è usata con gusto, se è usata bene. Ma vabbè, ma adesso uno si può rifare anche le labbra enormi, non succede nulla. Magari le peggiora, questo è il punto. Sì, se quello migliori è accettabile, si diventa dei canotti improponibili. Beh, ma lei sa che, come dire, de gustibus anche là, no? Insomma, canotti improponibili credo che non piacciono a nessuno. Ma senta, ma io voglio capire una cosa, ma Salvini, tornando alla politica, no? Per voi è veramente impossibile andare d'accordo con Salvini? Lei ha avuto a che fare con la Lega per un sacco di anni. Adesso possibile mai che Salvini va in televisione con Alfano, si trattano come due nemici che manco... Difatti, voglio dire, la Lega con cui ho trattato io era la Lega di Bossi e di Maroni, con cui abbiamo sempre trovato un accordo. Questa Lega di Salvini è una Lega lepenista, è una Lega... Cioè meglio Renzi, Beh, in questo momento sì, anche se noi siamo alternativi al centro-sinistra, ma non possiamo allearci con Salvini. Certamente che non è razzista. Allearci con Salvini. Che è razzista. È filorazzista, insomma, talvolta ha delle derive razziste. Quindi anche in Veneto non sosterrete Zaia voi? Se Salvini non cambia linea politica, in Veneto non potremmo sostenere questa Lega, è evidente. Ma dove andate senza Zaia? È evidente, aspetta, poi cambia tra un po'. Senza di noi? Ma no, dove va il povero Zaia senza cioè, di noi? Cioè, addirittura con questa Lega meglio la Moretti? Sì. Non ho detto questo. Beh, ho detto che è in corso un confronto molto chiaro. Se la linea di Salvini rimane questa, con questa Lega non è possibile allearsi. No, ma andiamo in fondo. Mi perdoni, noi siamo sostenitori. Ma quello prende voti e voi li perdete. No, voi adesso ci sono degli appuntamenti sul territorio. Anche la Le Pen prende voti in Francia, ma giustamente Sarkozy non si allea con la Le Pen in Francia. Però Sarkozy si può vincere, quindi... si può perdere. Ma voi non siete Sarkozy. Fedeli alle proprie idee. Ma voi non siete Sarkozy, però. Siamo meglio, certo che siamo meglio di Sarkozy. No, quello ha più Sarkozy voti, diciamo. Non si allea con la Le Pen in Francia, noi non ci alleiamo con Salvini. Vedi, in politica si può vincere e si può perdere, bisogna anche accettare di perdere, ma bisogna rimanere allora lei deve accettare che Renzi vi ha umiliato, perché questa è la realtà. Allora se Renzi insiste a umiliarci, lo lasceremo. Allora vi ha umiliato, dimostrerà di governare con altri, vuole darsi con 5 Stelle, prego, lo faccia, deve contraddire le sue scelte di questo anno. Quello con 5 Stelle non ci andrà, credo che Renzi voglia contraddire le scelte che ha fatto in quest'anno. In quest'anno lo abbiamo aiutato a fare una politica riformista. Vabbè. Renzi sa che non ci sono altre forze in Parlamento con le quali possa fare la politica. Comunque il suo tweet era fantastico, l'ho trovato. Descriveva la realtà in Non momento, voterà diceva, mai, ha detto. Non la votiamo nella seconda e non la voteremo nella. E invece terza. L'avete votato con gli applausi e con i sorrisi. No, va bene, quarto, dai. Dopo l'appello di Ma Renzi, qua l'appello? Appunto, dopo la telefonata ad Alfano che dite dove andate, siete Renzi al governo. Ha riconosciuto il suo errore, ha fatto l'appello e le condizioni c'erano per poter votare Mattarella, una persona sempre da noi ritenuta commendevole. Formigoni, l'abbraccio fortissimo. Viva la DC, viva la DC! Anche lei che non ha conosciuto la DC perché è troppo giovane. No, ma io l'ho conosciuta. Riconosca. Cosa? È stata la vittoria non della DC come partito, ma di questa antica cultura, quando la politica aveva un capo e una coda, la capacità di ragionare, la capacità di elaborare scenari. Vabbè. E questo è il ritorno della DC che ho festeggiato, ciao. Lasciando allibiti i 5 Stelle. Buona zanzara, a tutti. Ciao. Saluti. Egidio da Roma, vai Egidio, vai. Egidio? Buonasera, buonasera. Dimmi, vai. Brevemente vorrei dire che lei ha inventato una nuova sfuga. Perché una volta esistevano i cacciatori di teste, non so se esistono ancora. Lei invece ha inventato la figura del cacciatore di coglioni. Perché cioè io sono il cacciatore di coglioni, dice lei. Sì, perché è un'abilità, non lo sto offendendo, perché la metà delle persone che lei fa intervenire per vilacillare la trasmissione sono coglioni e trovarli non è facile. Vabbè, Egidio, la ringrazio. Invece di cacciatori di teste, o com'erano quelli cacciatori di scalpi, come erano gli indiani, ci sono i cacciatori di coglioni o di freaks, di mostri. Beh, devo dire che ho una particolare abilità, caro Parenzo. Poi rimango perplesso da quel soggetto che stasera diceva: io sono veneto, la Repubblica è lo Stato Sabaudo. Lo sa che siamo nel primo decennio, nel secondo decennio del terzo millennio? Ma in che mondo vivono questi signori? A me lo dice la Repubblica Veneta, cioè, ma è gente che non vuole accettare la realtà. Grazie, Giulio Verona, vai Giulio. Ciao Cruciani. Dimmi. Una battuta al volo, su Toscani, cosa vuoi che ci sia da commentare? Uno che cerca pubblicità anziché col suo lavoro, offendendo il popolo veneto, francamente lascia il tempo che trova. Io dico, da veneto astemio, perché bevo solo due dita di vino quando esco al ristorante, non mi ritrovo nella descrizione un po' folcloristica che fa Toscani. Dopodiché lui si stupisce che il popolo veneto lo offenda. Chiaro che se lombardo da... Non ho capito. Sì, pronto? Sì, mi senti? Sì, vai. Ecco, dicevo, è un po' più in casa, per cui... Va bene, Giulio, non si sente, vai. È una macchietta che lascia il tempo che trovo. Lasciami la battuta su... Sì, però, Giulio, o ti fermi, altrimenti non è che puoi parlare mentre vai nei vicoli o in posti dove non si prende il telefono. Vai, Giulio, su. Posso un po' di merda, in effetti. Solo una battuta a Parenzo sugli zingari. Qua, credimi, non c'è pregiudiziale razzista. Ma certo che non c'è pregiudiziale. I dati della questura dicono che la stragrande maggioranza, purtroppo, dei furti negli appartamenti, e qui nel Veneto purtroppo siamo bersagliati, hanno una matrice ben chiara, popolo zingaro, il quale è molto attento alle legislazioni, manda a rubare le ragazze minorenni incinta, ma stai attento, e sono molto attenti. Allora qui non stai si tratta attento. Di fare buonismo, no, ti dico questo, stai attento in culo, me, Parenzo, ma no, ma stai attento, scusami, una roba serissima, ti voglio dire una roba seria. Sono venuti gli zingari a rubare a casa di mia madre anche, ma mi dispiace moltissimo, vanno presi e arrestati. Ma ti voglio dire questo, negli Stati Uniti quando scoprono che anche un criminale c'ha un talento, dopo avergli fatto scontare una pena, strozzate, lo prendono e lo arruolano nella CIA, ad esempio, parlando? O lo vedono. C'entra? Ad esempio, gli hacker di professione vengono. Te lo ma sto che spiegando. Che vuol dire? Te lo sto dicendo. Ti prego. Se trovano qualcuno. Te lo sto dicendo. Se trovano qualcuno. In America, gli hacker di professione, dopo aver fatto un po' di galera, vengono presi. Non è che rubare dei cassonetti è una professione, ma dico, ma stai scherzando o no? No, ti sto dicendo. Stai paragonando. Per iperbole, ti sto dicendo un'altra cosa. Ma non è che è una stronzata. Se si bisogna integrare. Perché uno Stato si pone ma un problema. Sono italiani. Come facciamo con questo? Sono bene. Italiani. Allora, se hanno delle capacità, beh, mettiamole in pratica pazzesca, al fine che guarda, tutti pazzesca, ne abbiano pazzesca. Un beneficio. Facciamo delle cooperative, questi sono bravi a rovistare nella spazzatura. Stai dicendo sul serio, ma bisogna serio? Essere bravi a rovistare nella spazzatura. No, ma sono bravi a fare la raccolta differenziata. Allora, ricordiamo mettano quello... il loro talento ma al servizio della sono società. Sono bravi con le cooperative. A fare la raccolta differenziata i zingari, i rom. Sono bravi nell'inquinare, sono bravi nel. Nel creare un campo rom dove guarda c'è l'inferno, loro hanno nel una micro, hanno una capacità, dico, come dire, di usare sul serio? Delle cose, hanno, quando allora, li vedi con quei carrelli carichi di roba sporca, allora aspetta. Hanno una capacità nell'utilizzare cose che la gente butta, anche ad esempio la teoria di Parenzo, i rom la hanno teoria. La particolare capacità di utilizzare beh, sì. cose che la gente butta, benissimo. Beh, anche allora, quando rovistano nelle negli allora, io sono d'accordo con il sito Roma fa schifo, che cita appunto Francesca Danese, assessore alle politiche sociali al Comune di Roma, sindaco Ignazio Marino. Aspetto. Sono molto bravi nel recuperare i rifiuti e i materiali in disuso. Sarebbe importante riuscire a dare loro la possibilità di fare un lavoro per la comunità. Brava. E per la città di Roma, stai zitto, prendendo giusto questi rifiuti e selezionandoli. Aspetta, vedo questi rifiuti e selezionandoli. Sono realtà, totalmente in d'accordo. Realtà, questi signori qui sono i consapevoli manovali delle ecomafie che trafficano rifiuti e abbellirono la città. Il comune di Roma li vuole trasformare in addetti alla differenziata. Oh. La raccolta differenziata, brava. Siccome paghiamo un sacco di quattrini ad aziende corrotte come quelle gestite malissimo come quelle sulla, sulla raccolta dei rifiuti del comune non di Roma. Non per colpa dei Rom corrotti, no, certo mio, che eh? No, certo no, che no. Perché attento, facciano sennò loro la raccolta differenziata e non, la, e non diano la raccolta differenziata ad ai Rom. Adiuvandum. Ma adiuvandum. Giulio Verona, chi era? Brava questo assessore, andrebbe chiamato già io alla radio. Io. Brava, vai, Giulio, molto dimmi. Brava, molto no, serio. Allora, ma pare solo pagano per di tutte che cagate. Ma che cagate le cose, intanto cominci a parlare bene italiano. Mi parlo penso sta roba italiano qua. Mi penso che sia utile Tore sti sì Rom e integrarli sì in modo utile basso sì società. Pareto, mi penso sta roba, te capi? Se io parlo con quell'accento lì taglio un testicolo. Te capi? E te che da tagliarti ora? Te che da Tore a Forbis e zan. Il tuo. No, il mio sei in ordine, il mio sei tutto in ordine. Allora un attimo, un tizio via Twitter mi dice: "Gli scassinatori sono bravi ad entrare nelle case, allora mettiamoli a lavorare nei vigili del fuoco, dai". Non dire cazzate, dai. Giulio, vai, dimmi. No, niente, allora volevo solo salutare e dire: Parenzo è simpatico, ci andrei anche a mangiare la pizza con lui, però devi smetterla di fare il paraculo. Ma è la sua idea, secondo me è una follia, però va benissimo. Qui nel Veneto, ragazzi, non scherziamo col fuoco, la gente è davvero stanca, vanno a rubare non dai ricconi che hanno le telecamere. Povera gente che non sa di te. Vabbè, ma questo che c'entra? Allora, i ladri devono andare in galera, eh? Non è che Parenzo dice che i ladri vanno salvati. Bravo, meno male. Meno male. Scusa Cruciani, hanno depenalizzato tutto. Oggi se non puoi andare fuori senza fare un cazzo, non ti fanno niente, la sanno loro. La gente ormai sa perfettamente che in Italia c'è l'impunità. Corona è dentro 7 anni, poveretto. Allora dico, Corona 7 anni, un peruba 70. Non c'è proporzionalità nelle condanne. Secondo me. Va bene Giulio, allora, ciao, ciao, ciao. Ciao, ti saluto, ciao. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Ma siete una bella coppia comica, eh? Davide, tu sai che cos'è l'anilingus? No, no, questo lo ignoro. Questo l'anilingus è il sesso delle pari opportunità. Ah. Il sesso delle pari opportunità è una nuova pratica sessuale che in realtà non c'è niente di nuovo, che pare che stia in qualche modo spopolando. Ma è molto facile capirlo. L'anilingus, no? L'anilingus. Cioè, dal nome, diciamo, uno può dedurre facilmente molto facile, molto di che facile cosa si tratta. Diciamo. Assolutamente, assolutamente. Sì. Anilingus, vediamo chi interviene a spiegarci che cos'è l'anilingus. Non ha nulla a che vedere, però, con spread. Con nulla, nulla, nulla, nulla. Con nulla. Ma siccome diciamo, Squinzi sta la per scendere no, radio, dico, con la radio che ci ospita, beh, come no? Che certo è una radio che ha una vocazione prettamente, soprattutto economica, no, anche ma di attualità politica. Allora, una signora pratica che si chiama la pornostar, che si chiama Asa sì Akira, sì, ha dichiarato che culturalmente il culo è la nuova fica. Così ha detto, ti giuro. Così ha detto. Mi piace un mondo così. Cioè, finora è stato, cioè, il sedere è stato considerato un luogo sporco, depravato. E tutto quello che ha a che fare col sedere degli atti devianti, no? Devianti. Questa, invece c'è uno sdoganamento progressivo. Fino ad arrivare all'anilingus. L'anilingus. A voi la libera interpretazione. Vediamo se qualche esperto di anilingus ci vuole intercettare. Max ti Alessandria. Prego. No, ti prego, certo, ti prego. Max Alessandria, vai. Sì, buonasera a tutti. Io volevo parlare con il signor Parenzo. Sì. Secondo ecco la sua teoria perversa, che un ladro di rame e di ferro debba essere assunto dallo Stato, creargli una cooperativa ad hoc. Sì, no, per non assunto dallo dico, Stato. Per recuperarlo. Sì, per recuperarlo. No, no, piccolo errore, non assunto vabbè, dallo sì Stato. Sì, la cooperativa, insomma. No, no, no, è un corno completamente diverso. Ma sì, sì, ho per capito. No, ma sì, non assunto dallo Stato, è una stupidaggine. Sì, assunto nel senso soldi di una soldi dello Stato per ma una cooperativa. Ma neanche che questo è vero, ma guarda che è incredibile. È d'accordo, guarda, vabbè, incredibile. Specifica, ormai siamo porta a porta qua, secondo te, vai, forza, specifica. Ma no, ma sei inesatto, non ho mai detto assunto dallo Stato. Ma lei è inesatto, sì, certo, è inesatto. No, no, io non ho assunto dallo Stato, vuol dire che fanno una cooperativa, fanno una cooperativa che riceve soldi come da sai, una municipalizzata. Ma no, no, no, non è così. Ma come non sai, come non sai, le cooperative non è che ricevono soldi dallo Stato, possono avere agevolazioni fiscali. Non ricevono soldi, chi gli dà le cose? Scusami, già il fatto di non pagare le tasse vuol dire agevolazioni fiscali, le cooperative hanno agevolazioni, non è che lo Stato regala. Da chi vengono i soldi per recuperare i rifiuti? No, da chi vengono? Un attimo, da chi vengono i soldi per recuperare i rifiuti? Gli appalti da chi vengono? Ma cosa vuol dire? Da chi vengono? Ma è un servizio che svolgono appunto, per lo Stato. Appunto, prendono soldi dallo Stato dunque. Ma che vuol dire? Ma non è che ma lo Stato anche ci guadagna perché è un servizio che gli viene offerto, ci no? Ci guadagna, è tutto da vedere naturalmente. Ugo, dai, no, chi c'è? Dai, anche Max, non ci guadagna. Dai, dai. Beh, ci guadagna o ruba, come è il caso delle cooperative. Ma non ruba niente, è un servizio. Guarda che le servizio, cooperative bisogna sono vedere bianche, se quel servizio rosse, serve. Esiste. Bisogna vedere se quel servizio serve e non quando vengono qualche volta vengono create ad hoc le cooperative, come si è visto a Roma, ad hoc per rubare. No, no, no, momento. Quelle ma no, ma è tutto un'altra roba. Come si fa? Dire delle bene, allora, è Max, un'altra cosa. Max, vai. La mia provocazione, ma per uno stupratore seriale lo Stato dovrebbe finanziare una cooperativa per fare eccolo qua. Beh, ha ragione, sì, ha ragione, ma ha ragione. Ragione. Certo, è tutta una stupidaggine iperbolica, no, chiaramente ma perché tu non le fai? Perché come hai detto tu, come hai fatto tu prima, allora è uguale. Sì, ma è una stupidaggine. Allora, per gli stupratori, per recuperare gli stupratori, perché non facciamo, perché non fanno una cooperativa per che ne so, una cooperativa di guarigione che ne so, di di psichiatria sulle donne stuprate, che ne so, magari possono aiutare. Chiaramente è una stupidaggine. Ma non lo so, cioè l'allarme sociale che desta uno stupratore rispetto a questa data ed è incommensurabile rispetto a quello che farei Rom, ma non è neanche questo il punto. Nessuno pensa di recuperare ma uno sì, stupratore. Ma Max, voleva farti capire che la follia no, di Max, questa proposta è una follia. Le cooperative se possono servire per integrare persone che sennò è più difficile da integrare. È più difficile. E cosa dire, possono rendere servire un servizio amici, utile a tutta la società. Sì, questo è il punto. Le cooperative possono servire solo ed esclusivamente ai suoi amici e agli amici dei suoi di solito funziona basta. Così le cooperative funzionano solamente cosa per rubare soldi per rubare quali soldi quali sono dai, i miei amici cosa vuol dire i miei amici casualmente sono tutte di sinistra guardi che esistono anche le cooperative bianche della compagnia Ludovico delle opere, Milano Ludovico vai Comunione sì, di Liberazione ciao Giuseppe dimmi caro dimmi tutto bene? Sì dimmi dai ascolta volevo dirti che Toscani ha perfettamente ragione cioè? A dire che i veneti sono etilisti allo stato puro. Beh, adesso sono etilisti, che vuol dire sono etilisti allo stato puro? Che sono sempre ubriachi. E sono tutti ubriaconi. Ma che vuol dire tutti ubriaconi? Ma è una follia. Com'è? Scusami, non è un luogo comune, lì veramente per loro il vino è la vita. Senza di quelli. Vabbè, ma il vino è come dire. È come a Napoli la monnezza. I napoletani senza la monnezza stanno male. Vabbè dai su Ludovico dai non dire stupido. No ma guarda che te lo dico io che sono meridionale E allora? Ma che vuol dire? Ed è così. C'è il napoletano ce l'ha proprio nel DNA di essere sporcaccione, di buttare le cappe di pesce ma dalla dai, finestra. Ma come si fa a dire una roba simile su? Ma come si fa? Ma tu hai mai vissuto a Napoli? Ma sono stato. Ma, sì, ma come si fa a dire che i napoletani in quanto sì, De Laurentiis? Ma come fa? Ma voglio dire, ma posso fare mille nomi? E allora di mille tu dici i napoletani butta, hanno era sporco. Ma che sì, dici? Ma siamo alla follia. De Filippo. I napoletani hanno il DNA della monnezza. I veneti hanno il DNA del vino. Ma non è che ti devi offendere. Beh, insomma, i napoletani insomma, se gli dici che hanno il DNA della monnezza. Vabbè, ma perché sono napoletani, sono figli di Entrocchia. Ma è la verità, cioè. Beh, un la verità secondo chi? Scusi. Un napoletano senza la monnezza non è napoletano, dici tu. No, ma infatti. Ma, che, infatti, ma tu sei mai stato a Forcella? Sì, una volta, tanti anni fa. Se non cammini con l'ombrello, ti buttano la merda in testa. Vabbè, ma non è così, dai, su. Mi pare dai. Un po' una semplificazione. Però, allora, intanto, ragazzi, c'è una specie di... Su internet c'è di tutto su Toscani, c'è un gruppo che si chiama Una X per... No, questi dell'Indipendenza del Veneto, uno dei tanti gruppi, che ha disegnato 5 preservativi sulla testa di Toscani. Anzi, un preservativo. Ridi, ridi, pagliaccio e pagaci da bere. Partecipa alla class action dei Veneti contro il razzista Oliviero Toscani. 5 milioni contro uno e hanno messo un preservativo in testa alla figura di Toscani, insomma dipinto come una testa di cazzo. Ludovico, allora Ludovico sostiene che i napoletani hanno come dire, hanno la monnezza nel sì, cervello, nel sangue mentre i veneti hanno il vino nel sangue. Forse è meglio il vino della monnezza però, no? Ma quello senz'altro. Però guarda che anche loro, in quanto a mannezza, non scherzano niente, perché i veneti in epoche passate erano proprio la fuffa dell'Italia, Cioè in che senso, scusa? Cioè, senza andare adesso a rimangare le guerre puniche, però voglio dire, solamente un secolo fa i veneti erano un popolo di straccioni, di morte di fame. Sono emigrati in tutto il mondo. Vabbè, ma questo che vuol dire? A parte il vino, non c'avevano niente. Beh sì, tempo fa era un posto di povero. Non è che sta dicendo una stupidaggine in questo caso. No. Giuseppe, quello che ha parlato all'inizio in apertura di trasmissione. Quello è un classico esempio della demenzialità veneta. Cioè, tu dici Rocchetta, là, quello indipendentista. Ma sì, ma quello al posto del cervello c'ha l'alcol. Ah, tu dici, uno che ragiona in quel modo c'ha l'alcol, è la prova provata che i veneti sono ubriaconi, come dice Toscano. Bravo, ma mica solo lui. Quell'altro di Verona, il sindaco di Treviso, quello con il pistolero. Ma che cazzo di dici, la prova provata che sono ubriaconi. Ma è come ubriachi marci. Va bene, Ludovico, grazie. Marco da Brescia, Marco. Ciao ragazzi, ciao. Due secondi, solo per dire una cosa, che reputo Parenzo una persona intelligente, non condivido le sue idee, però la reputo una persona intelligente, volevo solo dire che secondo me neanche lui crede in quello che dice in merito. No, guardi che sulla vicenda dei Rom ci crede, ti assicuro che ci crede, ti assicuro che purtroppo ci crede, purtroppo ci crede, però va bene, va benissimo, gli vogliamo bene lo stesso, però ci crede. Deve mantenere una facciata che ormai non può più tirarsi indietro. No, su questo no, ma ci crede, lui crede davvero che per recuperare i Rom alla civiltà. Chiamiamo l'assessore al comune di Roma, come si chiama l'assessore, che non mi ricordo. Danese. L'assessore danese ha detto una cosa molto intelligente, geniale dal punto di vista politico, ed è una persona che fa politica perché si pone il problema di risolvere la questione Rom, e non lo fa con le solite parole d'ordine: in galera chi ruba. Ma che c'entra? Mica bisogna dire per forza questo, che è straevidente. Fa politica, cioè dice: rendiamo utili alla società questo gruppo di persone. Ma che come c'entra? Facciamo con una cooperativa. Brava, poi... brava l'assessore di Roma, brava. Ma se, ma se fosse così, ma se si dovesse risolvere distribuendo lavori. Danese al Quirinale doveva andare. La danese al Quirinale. Su questo un po' esagerato, però è così. Guarda, cioè, scusa, fammi dire un'altra cosa velocissima. Aspetta, parlaci tu. Adesso risquilla il telefono. Parlaci tu, Parenzo. L'assessore. Con chi? Aspetta, quella signora danese. Vai. Oh, ma non la conosco io, però. Vabbè, dì, signora danese? Sì, certo. Può parlare o mangiare con cooperativa. Dai, su. Era impegnata a lavorare perché lavora. È un assessore. Al Quirinale doveva andare. Tra 7 anni, danese al Quirinale. Ma dai, su. Dopo aver fatto le cooperative per i Rom integrati nella società. Ma quali cooperative? Sì. Ma quali cooperative? È così. Non dire stronzate. Tu non sei. Gente qua è feccia. Invece la politica in molti casi è feccia, sì, certo, in molti casi è feccia. E invece la politica quando rubano è feccia, quando uno i problemi. Sì, vabbè, la quando politica, uno non vuole lavorare, la politica ma vuole seria, rovistare nella monnezza la e non vuole lavorare. La politica seria che bada al consenso, sì, ma anche alla coesione civile. Chiamiamo dopo Marco, che cosa coesione ha detto? Senti, questi discorsi li vai a fare a Porta a Porta. Marco da Brescia, vai, quando ti inviteranno, ma non ti invitano tanto, vai. Solo giusto per rendere, sai cosa ci vorrebbe per rendere i Rom simpatici al 99%, a parte simpatici del popolo della Zanzara, anche se non si augura a nessuno, e quindi lo dico solo per provocazione, ma un bel furto a casa di Parenzo probabilmente li renderebbe simpatici a tutti. Ma no, ma se ne fotterebbe. No. Ah, tu dici Rom, andate a rubare a casa di Parenzo, andate a rubare, vi do io gli indirizzi, li distribuiremo, li diffonderemo, gli indirizzi, andate a rubare e poi vediamo come risponde Parenzo. Tutto qua. Ciao. Mantenete sempre il vostro frufrumo, Pronto? Pronto, Antonio? Sì. Sono Giuseppe, come stai? Bene, siamo qui. Dove ti trovi, Antonio? Che voce? Sono con il grande Lino Banfi. Sei con Banfi? Ma ti manca la voce, Antonio? Che è successo? Ancora recupero mi sono raffreddato, insomma. Stai messo male? Stai messo male? Sì, sì. Stai messo male? Ma com'è che sei con Banfi? Tu e Banfi, una coppia straordinaria. Siamo la coppia più bella del mondo. Incontro al vertice, Antonio Razzi. Ma nel giorno delle elezioni di Mattarella, scusa. No, ma elezione no, della proclamazione la di proclamazione, Mattarella. Certo. Beh, che c'entra, ma la proclamazione di Mattarella. Un momento istituzionale così alto, con Banfi. Bellissimo, perché sì, bene, adesso ci stiamo ben rilassando. Ma dove siete, scusa? Rilassando. Siamo qui a Roma, all'Hotel Parco dei Principi. Ecco, ma scusa, svelaci una cosa, Antonio, come mai hai incontrato Banfi oggi? Dopo me lo passi. Anche, beh, forse è meglio che te lo spiega lui. Stavamo vedendo di fare qualcosa insieme e penso che è una cosa che ti può spiegare il grande maestro. Sì, innanzitutto bisogna dire una cosa prima che me lo passi, che tu hai preso 4 voti a un certo punto e poi 2 nella votazione per il Presidente della Repubblica, e un voto l'ha preso pure Banfi, però cioè... non so, il voto è segreto. Ma tu hai votato per Banfi per caso? No, io ho votato scheda bianca. Tu hai votato scheda bianca? Sì, ordine del mio capo che è Berlusconi. Berlusconi, ma per te ordine, certo, ha dato un'indicazione. Ma tu più o meno... Io non mi sono mai votato, eh. Ah, tu non ti sei mai... E per te chi ha votato? Secondo... Non lo so. Me l'hanno detto parecchi, io ti voto. E tutti quelli che mi hanno detto che mi votavano, ero già Presidente della Repubblica. Vabbè, passami un attimo Lino, va. Ti passo Lino Banfi. Sta arrivando Lino Banfi, Sì. Lino! Come stai? Benissimo. Ma che c'ha zecca? Ma Razzi? Ma che state facendo? Un incontro a vertice? No, non lo so, ci siamo conosciuti oggi personalmente. Per caso, perché io sto all'hotel dove feci le nozze d'oro 50 anni di matrimonio. Sì. Siccome mia nipote ha lavorato qua, sono venuto a vedere come va, che fa l'aiuto chef. Ma ho incontrato il ragazzo Razzi, lo conoscevo, ci siamo conosciuti, è simpaticissimo. Dici qualcosa, fate un film insieme? No, beh, questa è una cosa che si dice, ma magari se io faccio un film e c'è un ruolo divertente, lui è simpatico, c'è una faccia simpatica, può fare benissimo un sindaco di paese. Io gli ho detto adesso che può fare anche un pazzo appena uscito da... che si cura e poi si capisce che invece quelli sono quelli veri, quelli che hanno avuto degli shock, delle cose, sono dei pezzi grossi, quelli veri. Senti, i pezzi veri stanno fuori. Scusa un attimo, ma dunque non è escluso che fate qualcosa insieme? Magari, se nasce, se troviamo la produzione giusta, perché no? Io sono anche produttore, vediamo. Ma lui ha la faccia, sì, ha il physique di rollo, la faccia, il ruolo e tutto, sì. Non lo so, me lo sto studiando adesso. Chiacchieriamo insieme, ci beviamo un tè alla menta. Cos'era questo tè? A tè verde. Senti, ma chi ha votato secondo per Lino Banfi? Perché è uscito pure il tuo nome. Chi ti ha votato? Ma io credo che sia uno di sinistra che mi ha votato, perché loro avevano un ordine preciso di votare scheda bianca. Ma lo sai, hai fatto un'indagine o no per capire chi ti ha votato? E a chi chiedo? Che ne posso fare? Adesso posso chiedere a Razzi che è dell'ambiente. Oppure qualche amico pugliese, che ne so, qualche deputato pugliese o senatore pugliese, no? Ma io in un primo momento ho pensato anche che poteva essere Fitto, che in un momento che si è ingazzato con Berlusconi, così per dispetto farà questa cosa, ma non credo, non è questo non credo. Ma senti, non è che era un nome sbagliato, non è che era Baffi o un altro cognome, perché io ancora mi meraviglio di questa cosa. Vabbè, un po' sei stato contento, dai, un voto. Io sono stato felice, anzi ho detto a molti simpaticamente: io sono quasi uguale al nuovo Presidente della Repubblica, solo che lui ha preso 700 voti e uno, ma che se me ne frega. Senti Lino, a proposito invece di allenatori, ogni volta si ricorda l'allenatore del pallone, ma secondo te Inzaghi, per esempio, no, non sta facendo peggio quasi di Oronzo Canà? Sta facendo un po'... Inzaghi fa un po' il metodo mio. Non è che io gli do i consigli, io per ora un mio allievo, non so se te lo posso dire, tu non lo dire in giro. No, per carità. Alla radio, sì, per carità, non lo dico in giro. Un mio allievo bravo è l'allenatore del Palermo, Iachini. Che a Palermo va bene perché usa fare 5-5-5, sì. C'ha il doppio vantaggio a nodo di pettine, che è un altro metodo che faccio io. La bizona. Adesso voglio dare i consigli a Garcia, devo scappare perché si stanno già riscaldando i giocatori. Stasera c'è la Roma, certo, con la Fiorentina. Ma Inzaghi invece sta facendo peggio di Canà? Ma Inzaghi fa peggio di Canà perché ce n'ha due o tre crisantemi, io ce n'ho solo uno, lui ce n'ha due o tre. E chi sarebbero sti crisantemi? Ce n'ha un po', dici, di gente. No, no, non si fanno i nomi, solo il 2 novembre si possono fare quei nomi. Senti, ma vuoi dire a Cassano di andare al Bari, che sarebbe la soluzione migliore? Ma magari io lo rivedessi, non lo vedo da tanti anni Cassano, che è sempre un grande giocatore per me. Ora che se ne dica, il ragazzo è sempre un campione e va valorizzato per quello che è. Ma digli... un po' pazzerello, pazienza. Ma digli di andare al Bari, magari al Bari trova la sua, no, la, gli, non suoi... si dice al Bari, si dice alla Bari. Alla Bari, hai ragione, alla Bari, alla Bari. Adesso, se Papa resta, se questo Papa resta, non Papa Francesco, se questo Papa resta che ha preso la Bari, sì, sì. Va bene, e allora gli do io i consigli giusti. Va bene, mi ripassi un attimo Antonio? Sì, grande coppia ormai. Il ragazzo Razzi. Il ragazzo Razzi. Te lo studio mentre parlo. Te lo stai studiando, te lo stai studiando. Eccoci qua. Scusa un attimo una cosa, ma stanno girando delle foto tue di De Niro, no? Qualcuno dice che sono false. Tue con De Niro che prende la maglietta in mano... No, sono vere. Sono vere. Quelle sono vere, non sono... Io quando metto una cosa io... È vero, io non faccio mai le foto per scherzo. Ma che t'ha detto De Niro? Che mi ha detto De Niro? Cosa mi ha detto? Ma t'ha riconosciuto? Sapeva chi eri? Come quando siamo scesi dalla cena da Carlo Maglietta a casa del produttore Carlo Maglietta. Sono andato giù, mi chiedevano il selfie, fotografie con me e io ho detto, oh, ma fatelo pure con De Niro. Cioè eri più fotografato di De Niro, stai dicendo? E quello mi dice, ah, questo è De Niro, vabbè, allora lo facciamo pure con De Niro. E De Niro che ha detto, questo è un senatore. Hai capito? Vabbè, ciao Antonio, rimettiti la voce, ciao, rimetti la voce, ciao. A voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Non accetta lezioni da lei, chiaro? Bastiano da Foggia, signor Bastiano da Foggia, intanto si è formata una nuova coppia cinematografica, lo possiamo dire a tutti, con questo meeting, con questo incontro al vertice all'Hotel Palco dei Principi di Roma tra Lino Banfi e Antonio Razzi. Film in cantiere, vai Bastiano. Benissimo, io sono un pugliese come Lino Banfi. Sì. Senti Cruciani, dimmi, caro. Devi scusare, ma io devo fare un cazziatone, sai perché? Sì. Perché molto spesso ti metti a litigare con Parenzo inutilmente, tanto che non capisce niente, no? E tu ti sforzi a fargli capire, o lo fa apposta, oppure ci marcia. Ecco, insomma. il Nobel. Aspetta, è arrivato il Nobel. Il Nobel ha chiamato. Allora, stai zitto, pezzo l'uno di coglione. Bell non sei chiamato. Un coglione sano, sei un coglione a metà. Allora, ha chiamato l'uno Bell, fammi parlare con Cruciani, cretino, per carità. Tra simili vi intendete, allora, l'uno Bell ha chiamato, allora, un premio Nobel. Tu, caro signor Cruciani, devi togliere Parenzo e devi mettere Rocco Siffredi e la signora Nappi. Così voi fate più pubblicità rispetto a questa situazione qua. Questa situazione, non vi dovete accavallare, litigate. C'è un cliente, c'è un radioascoltatore che come a me parla. Voi vi mettete a litigare, non si capisce un cazzo, né qua e né dove state voi. Non vi capite, non ci fate capire niente. Allora? Allora ti consiglio di licenziare Parenzo e prendi la Nappi e Rocco Siffredi. Parenzo, allora che dici tu? Rispondi a Bastiano, no? Signor Bastiano. Bastiano, sì. Può essere una strategia anche questa, benissimo. No, sai perché? Sì, questi cazzo di rom, va bene, secondo me, va bene, quando tu farai il Presidente della Repubblica, li assumo tutti quanti al Quirinale, i rom, bene, amici tuoi. Sì, amici miei un corno. No, io mi domando e dico, Parenzo, io mi domando e dico, chi sta in Italia io e non lavora, come cazzo domandi? Nelle gambarce non va a rubare? Ma cosa ti domandi e cosa dici soprattutto? Fatti una domanda e datti una risposta Da solo, bravo. E fallo. mi devi dire, i rom, va bene, in Italia, va bene, se non hanno il lavoro, come cazzo devo campare se non vanno a rubare? E con Eugenia, è intervenuto un Eugenio. Sì. Tu sei un genio della cazzo. Lampada, allora, intervenuto. Luciano, ti avevo telefonato per dirti che cos'è il conlingus, sì, e che cos'è l'anilingus. Ah, eccolo, allora, perfetto, professore. Il conlingus, certo, ognuno va bene, ha le sue specialità, si fa alla donna, diciamo, sul clitoride, eccolo, con la lingua. Invece l'anilingus si lecca l'ano, sì, a una donna oppure a un uomo. Eccolo. Lo sapevi, Parenzo? Il professore. Beh, tu non lo sapevi, adesso Bastiano ti sta spiegando che cos'è l'anilingus. Il professore che ha la radio di Confindustria ci spiega alle 20.45, questo è benissimo. Grazie della sua spiegazione, grazie. Benissimo. Tu benissimo. Hai fatto finta di non saperlo, a te te l'hanno fatto, vero? Bravissimo. Quanti anni ha lei, Bastiano? Io sono 70, io sono esperto, sono un fisioterapeuta. In che senso fisioterapeuta? Pratica l'anilingus? No, il conni l'ho fatto, ma quell'altro non l'ho fatto e non lo voglio ricevere. Perché? È perché, senti Cruciani, guarda, voi siete amici, voi due, in basso, no? Nella porcelleria del linguaggio. Perciò ti dicevo, Parenzo, che è molto, diciamo così, radical chic, che non dice mai una parolaccia, non sta bene con te. Devi prendere la Nappi e Rocco Siffredi. Va bene? Così la Confindustria fa progresso, quelli là non costano niente, invece Parenzo ti costa 6 e non ti rende quanto è quei due. Scusami un attimo, però mi dai una spiegazione tecnica di nuovo di che cos'è l'anilingus? Beh, non serve, si è capito. Cruciani, anzi no, Peppino, io c'ho un vicino come te. Allora, Peppino, senti qua. Li conoscete da però tempo? È molto religioso, cattolico e pulito, no? Chi? Giuseppe, mio figlio. Ah, siamo tuo figlio? Beh, non è come me, no, non è come me. Prima erano scellerato, peggio di te, adesso invece tu sei più bravo di lui. Allora, però la tecnica è questa. Ma che bella, allora, famiglia. Ma che bel papà. La masturbazione del clitoride. Papà che telefona. La masturbazione? Scusa, Crociani, non disturbare. Gli italiani ti tengono sul cazzo. Ma con che faccia torni a casa tu la sera? Dopo aver detto queste cose. Io sono Bastiana mia da Foggia. Ma con che faccia torni a casa dopo aver parlato di queste cose a una radio nazionale? Allora, senti, ma che figura fai, Bastiano da Foggia? Ma che figura fai quando torni a casa? Vai, Bastiano, quando passi di qua, senti, quando passi di qua a Foggia, mi telefoni. Sì, ti chiamo. Ti faccio vedere. No, non voglio fare brutta figura quando vado in giro per la città. Se passi per Foggia, ti faccio vedere quanto peso. Anche no. Anche no, quanto peso. Preferisco frequentare altre persone. Se dovessi mai passare nella bellissima Foggia, anzi, tornare nella bellissima Foggia. Preferisco frequentare altra gente, diciamo. Che il Gargano. Comunque la tecnica è questa. Dimmi qual è la tecnica, caro. Dimmi. Allora, la donna si mette in posizione ostetrica. O l'uomo, Sì, con un uomo, oppure con una sua compagna. Sì, allora? Va bene. Si mette in posizione ostetrica. Ostetrica, sì. Va bene? Sì. L'operante. Sì, l'operante. Linguale, sì. Si mette carponi, cioè con le mani a terra, e avvicina il naso. Sì. Sull'arco pubblico, sì. Va bene? Sì. Sotto c'è la lingua e c'è il clitoride. La lingua titilla il clitoride, sì. E tu senti, fai salti mortali con lei o colui che riceve. Con lei. Allora, invece, l'anilingus, va bene? Ah, quello era il cunni, diciamo, no? Conni o cunni. O cunni, sì. Invece l'anilingus... È la parte posteriore, è uno schifo, proprio di uno schifo. È la parte posteriore, sì. È l'ano. Ano lì, ho capito. Tu non l'hai mai praticata e né qualcuno l'ha praticata su di te. No, una cosa che fa molto schifo. Ti fa schifo. Ma solo a pensarlo. Vabbè. Bastiano, grazie di questa spiegazione, professore. Licenzi a Parenzo e prendi quei due. Grazie, siamo maestro. Tutti ciao. Meglio, ciao, maestro. Sta porcheria, ciao. Questo signore. Gnappi, gnappi, gnappi. Provincia di Treviso, Claudia. Sono qua, buonasera. Ti ha convinto la spiegazione del professor Bastiano? No, non mi interessa. Non le interessano queste cose? No, io ho chiamato. Cioè, per... chiude, si tappa le orecchie quando sente queste cose? No, non è. No, però... per carità, no, però non interessa praticare l'anilingus. Sì, diciamo. Quanto è troppo storpia, insomma, è un po' troppo nella sua trasmissione questo adesso argomento. È intervenuto adesso sto signore, è una prima volta. Io sono intervenuta a difesa di Toscani. Sì, sì, dimmi, ha detto dimmi. Semplicemente la verità. Io abito nel Veneto da più di 30 anni e posso dire che i veneti non che bevono, lo mangiano il vino. Vabbè, ho capito, lo ma mangiano a colazione alle 5 di mattina. E poi una cosa può fare lei, quando chiamano le dica che circonferenza di vita hanno. Hanno delle pance. Che sono più grosse di una partoriente che porta nella pancia sono, due gemelli. Ho capito, ma non sono tutti così. Cioè, non sono... Lo dice lei vive qua, io ci vivo da più di 30 anni. Ho capito, ma che ha fatto una statistica sui veneti, lei, scusi? Io li vedo subito. E poi le sto dicendo anche delle caratteristiche. Hanno delle pance enormi. Ma adesso delle pance anche se enormi. La persona... Perché si vedono, stanno sempre a bere. Ma sembra non è che, adesso, non è, questo non è criticare, è la pura verità. Ah, va bene, lei ha fatto una statistica e dice che i veneti sono tutti panzoni. Dai, su, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Su, dai. Vabbè, Claudio, io ti abbraccio fortissimo. Ma se lei mi sta a stuzzicare per farmi dire altro, ce n'è tanto di altro. E che c'è di altro comunque, sui veneti? Comunque, questa è la verità. E Toscani ha detto proprio una minima cosa. E che invece quindi... quell'altra cosa sui veneti, che cosa c'è d'altro? Ah, guarda, lasciamo perdere, non... Lasciamo perdere. Ma lei proprio li odia. Loro si. Perché si offendono? Se è una cosa vera. E allora? Quando dicono Terroni, uno che è Terrone, che è nato al sud, che colpa ne ha? Ma è dispregiativo. Perché dicono Terroni? Detto così è dispregiativo, Terrone. Vabbè, Giulio Padova, vai, Giulio. Giulio, veloce, vai. In realtà le difese di Oliviero Toscani, perché l'ascoltatore di prima ha insinuato il concetto per cui Oliviero, prima di lavorare per la Benetton, non era nessuno, non era famoso, bravo. Lui ha mangiato su quel piatto. Questa è una grande cagata, perché Oliviero, prima di lavorare con Benetton, era un fotografo famosissimo, lungamente corteggiato dalla famiglia Benetton. Ma infatti la teoria per cui lui non può dire certe cose sui veneti perché ha preso i soldi da Benetton lavorando è una stronzata galattica, non c'entra assolutamente nulla. Vabbè, dai, ragazzi, ci sentiamo domani alle 18:30. Ciao. Buona zanzara a tutti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. I love you. I like a virgin. Radio 24. La passione si sente.